passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34 minuti in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Questa sera, seguendo e commentando i risultati elettorali, saremo in onda fino alle 21:45. Iniziamo subito, non ci sono i titoli del TG2 perché sta andando in onda un lungo speciale elettorale. Studio aperto allora. Sono definitivi i risultati delle europee, il PDL al 35,2%, mentre il PD si ferma al 26,1%, boom della Lega che sfonda il muro del 10%, Di Pietro raddoppia all'8, a secco la lista Pannella Bonino, Sinistra Radicale e Movimento per l'Autonomia di Lombardo. È in corso lo scrutinio per le amministrative. Dai primi dati parziali il centrodestra strapperà numerose province al centrosinistra, tra queste Milano e Napoli. Ma vabbè, i titoli principali naturalmente di Studio Aperto sono sui risultati elettorali, come saranno tutti i titoli dei principali telegiornali questa sera. Vi ripeto il numero di telefono, potete iniziare a intervenire per commentare insieme a noi i risultati elettorali, 800 24 00 24. A Milano siamo ancora molto lontani perché sono state scrutinate, stiamo parlando della provincia di Milano, 606 sezioni, pensate, lo scrutinio è iniziato alle 14 e naturalmente non sapendo quali sezioni arrivano è difficile fare dei pronostici. Comunque podestà del PDL e della Lega è avanti con il 49,1, indietro Penati, ma la battaglia qui si giocava a Milano, nella provincia di Milano, sul fatto che Podestà vinca o no al primo turno. Sembra insomma in bilico questa vittoria al primo turno di Podestà. Siamo andati a pescare che cosa? Un fuori onda di Gioacchino Bonsignore, collega del TG5. Noi non facciamo sconti a nessuno e allora il fuori onda ci dice alcune cose, tutte divertenti naturalmente. Sentite prima. Ma rispetto, non ho visto rispetto alle politiche che hanno fatto, hanno perso Berlusconi, fare un po' qualcosa ha perso. No, ma era solo una curiosità. No, per capire, no, ma non glielo dico mica, lo dico in onda, per capire come è andato Berlusconi rispetto all'anno fa. Il popolo della libertà. Ah, non c'era il popolo della libertà. C'era l'Alleanza Nazionale dei Coffini. Coffini e la Lega. Bisognerebbe vedere Alleanza, bisognerebbe vedere però Forza Italia e Alleanza Nazionale. Per curiosità, capito? È solo una curiosità nostra, io non penserei di mica che lo diciamo. Ecco, appunto. Cioè. Ma come una curiosità? Una curiosità, i voti presi da Forza Italia l'anno scorso, che poi in realtà non c'era già Forza Italia, c'era già il PDL l'anno scorso. Per cui Bonsignore non sa che il PDL c'era già nelle politiche del 2008, Forza Italia più Alleanza Nazionale. E poi c'è questa considerazione che fa, ma non penserai mica che lo diciamo in diretta, ma come non lo diciamo? Non si possono confrontare i voti delle politiche del 2008 con le europee del 2009? Bah, misteri al TG5 nel fuori onda che avete appena ascoltato. Chi è contento? Chi è contento nel centrosinistra soprattutto per avere stoppato Berlusconi, per avere fermato Berlusconi, così ho letto nei vari commenti. Iniziamo da Lidia Ravera, Lidia Ravera sul sito di Micromega, che dice: Berlusconi non ha trionfato, dunque noi siamo andati a votare depressi, però insomma, l'importante è che il mostro è stato fermato. A decidere di non deprimersi, partiamo da questo presupposto, che già siamo andati noi di sinistra, siamo andati al voto depressi. Allora cerchiamo di vedere prima il positivo. Il positivo è che Berlusconi non ha trionfato. Nella sua infinita tracotanza lo sbandierava e invece non è successo. Non ce lo facciamo bastare, ma è un buon segno, vuol dire che gli italiani non sono del tutto manipolabili. Ce lo facciamo bastare? No, però comunque è un dato. Beh, la cosa straordinaria è che gli italiani non sono del tutto manipolabili, cioè quel 35% che ha votato Berlusconi sono quelli manipolati, insomma, quelli che purtroppo sono persi, insomma, si fanno manipolare da Berlusconi e non contano, insomma. Gli altri, per fortuna, sono quelli non manipolabili da Berlusconi. Bellissimo. E Paolo Flores dal CAIS, sempre su Micromega naturalmente, Berlusconi sconfitto, questa è la prima cosa, sentiamo. Berlusconi è stato sconfitto, prende il 35%, è una sconfitta rispetto al risultato di un anno fa, è una sconfitta ancora più grande se si pensa al significato che Berlusconi voleva dare al superamento del 40%. Una sorta di plebiscito a suo favore che avrebbe dovuto chiudere ogni possibile contestazione dei suoi comportamenti sia in sede giudiziaria sia in sede di opinione pubblica interna e internazionale. E con questa sconfitta invece viene meno l'aura di leader vittorioso e di grande manipolatore dell'opinione pubblica che lo ha accompagnato. Inizia la fase di declino. Inizia la fase di declino. 18:40, 800 24 00 24, la maggior parte dei commenti, soprattutto nel campo del centro-sinistra, è improntato a questa, al fattore Berlusconi, al fatto che Berlusconi non ha sfondato, che non ha raggiunto il 40%, ed effettivamente uno dei punti è questo: la disastrosa comunicazione di Berlusconi, almeno secondo me, negli ultimi 15-20 giorni di campagna elettorale, quando ha iniziato a dire insomma, i nostri sondaggi ci dicono che prenderà tra il 40 e il 45, che il PDL prenderà tra il 40 e il 45, insomma ha alzato l'asticella, e certo adesso i commenti si concentrano su questo 35%. La possibilità di portare in Europa, se le urne ci consegneranno gli stessi voti che sono annunciati nei nostri sondaggi, siamo dal 43 al 45%, un po' per la realtà. Beh, insomma, la realtà è questa: Berlusconi aveva questo obiettivo, enunciato, proclamato, perché i sondaggi probabilmente gli dicevano questi, e il risultato è il 35%. Dunque, insomma, la sconfitta c'è tutta. Vittorio Zucconi, uno strano modo di calcolare il suo, il direttore di Radio Capital, editorialista di Repubblica, uno degli editorialisti principe di Repubblica, uno strano modo, dice c'è il 65% che non ha votato Berlusconi, insomma su questo non c'è dubbio, quelli hanno preso il 35, il 65% non lo dice come se fosse un qualcosa su cui fare un'analisi politica, il 35% ha votato per il PDL, il 65% non ha votato per il PDL, cioè non ha votato per Berlusconi, insomma bella scoperta. Il 65% degli italiani non hanno voluto mettere il voto, la propria croce, sul nome di Silvio Berlusconi. E ancora più grave, una maggioranza degli italiani, se ancora so fare un po' di conti sul rovescio di una busta, una maggioranza ha votato per partiti che da una parte o dall'altra, con motivazioni diverse, si dicono in opposizione al governo. Quindi sicuramente non c'è il 75% del plebiscito pro-berlusconiano. Secondo, non c'è nemmeno quel minimo che era il 40% che il partito appunto di Berlusconi, che è formato da due partiti, non dimentichiamolo, sosteneva di avere. Sentiamo adesso il direttore di Repubblica Ezio Mauro, perché io mi sono fatto un'idea su questa campagna elettorale per le elezioni europee, per le elezioni provinciali, ma il riflesso c'è stato soprattutto sulle elezioni europee, cioè che sia stata una campagna elettorale dominata dallo scontro tra Repubblica e Berlusconi. Questo scontro sicuramente ha portato ad una vittoria, quella del gruppo Repubblica, perché adesso non si possono fare ancora analisi approfondite, penso che qualche punto percentuale la campagna di Repubblica su Noemi eccetera l'abbia sicuramente strappato a Berlusconi. E dunque Ezio Mauro gongola, il direttore di Repubblica, che dice Berlusconi è stato fermato. Berlusconi ha vinto, ma in qualche modo ha perso, nel senso che è il primo partito, però aveva fissato delle aspettative così alte, e poi comunque se si confronta col voto dell'anno scorso è andato indietro. Il PD ha perso e tuttavia è in campo, ma questa era la vera partita del PD. Per Berlusconi la vera partita era lo sfondamento, lo voleva in tutti i modi. Per Franceschini il problema era il primum. Bene, 18 e 43. L'altro elemento è, e l'altra domanda che vi faccio, si può esultare? Non dico che hanno esultato, ma insomma sono soddisfatti i leader del PD dopo un risultato che è 7% in meno rispetto alle politiche del 2008, cioè dal 33% più o meno al 26% di adesso. 800 24 00 24. Antonio da Napoli, buonasera. Dottor Cosciani, buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione e per questo speciale non specifico. Io sono arrivato a venerdì sera, cioè quindi a qualche ora dalle elezioni, senza avere, io premetto, sono elettore di centrosinistra, sempre stato, diciamo, e quindi comunque non avrei votato per Berlusconi, ma diciamo questo un po' esula dal ragionamento che voglio fare. In sostanza io osservavo un vuoto di proposte concrete nel messaggio sia del PDL che del PD, in particolare del PD, perché in sostanza ha impostato buona parte della sua campagna elettorale a contrastare Berlusconi e in sostanza un po' demonizzarlo. Cioè, secondo me ha poco da esultare, e lo dico diciamo naturalmente con dispiacere, perché il mio voto è andato da loro. Il PD si è rivolto praticamente al proprio elettorato di sempre, cioè non è riuscito a strappare parte dell'elettorato, di quella parte frizionale di elettorato che invece è andata a depositarsi in Italia dei Valori, che ha, oppure, anche nell'ascesa dell'UDC, un po', come dire, ciò ha dimostrato in sostanza una voglia dell'elettore, diciamo, di sentirsi proporre qualcosa di serio, diciamo, dell'elettore incerto, non quello che ha diciamo, le idee chiare, che comunque non avrebbe votato Berlusconi per nessun motivo al mondo. Questo, diciamo, ero sconfortato prima, sono. Lei è sconfortato per il tipo di campagna elettorale che ha fatto il partito per cui ha votato, cioè dire il Partito Democratico. La ringrazio. 937 sezioni su 2905 sulla provincia di Milano, che resta il risultato più in bilico, perché nel resto dell'amministrativa più o meno le previsioni sono quelle. Naturalmente ci saranno molti ballottaggi. 937 sezioni su 2905, provincia di Milano, Podestà 49,2, Penati 39,2, 10 punti, ma non conta, perché se Podestà non supera il 50% si va al ballottaggio. Con il direttore dell'altro, Piero Sansonetti, buonasera. Buonasera. Senta Sansonetti, per valutare i voti intorno a Berlusconi, insomma del PDL, secondo lei, iniziamo da qui, cosa bisogna considerare? L'asticella che Berlusconi ha posto in alto negli ultimi giorni di campagna elettorale, con i sondaggi che diceva gli davano tra il 40 e il 45%, oppure considerare il fatto che nonostante l'astensione, le elezioni europee siano sempre una cosa particolare, il PDL insieme alla Lega sono sempre, che ne dica Franceschini, che leggo che sostiene che il governo è minoranza nel paese, ma insomma poi ognuno fa i suoi calcoli in questi casi, insomma resta pur sempre il PDL un partito del 35%, uno dei partiti più grandi in Europa. Cosa bisogna considerare? Beh, il PDL non è che è scomparso, diciamo, no. Resta uno dei partiti più grandi in Europa, dopodiché non ha avuto un successo elettorale perché ha preso, adesso non so esattamente quanti, ma credo circa 4 milioni di voti meno di un anno fa. 4 milioni di voti meno di un anno fa sono tanti, scoprire dove sono andati, questo sarà il problema del PDL. Adesso non so se siano 4 milioni, mi sembra che 4 milioni siano quelli del PD, però 4 milioni, 4 Ma siamo lì, più o meno, saranno 3, adesso non ce l'ho da pensare. Comunque, insomma, 2%, parliamo di milioni di voti, che sono stati persi, il risultato elettorale, diciamo, segnala queste due grosse frane in cifra assoluta, alcuni milioni di voti perduti dal PDL e dal PD, adesso PD forse ha perso un pochino di più, no? Perché come ha perso più in percentuale ha perso pure di più in cifra assoluta. Naturalmente poi su questo contare che la politica è anche un fatto psicologico, no? Sì, allora, sì. Fa tutta la campagna elettorale dicendo prende il 45%, naturalmente c'è anche un disegno lì, nel senso che si immagina che in questo modo si spinge l'elettorato a votare per il più forte, e poi invece il 45 prende il 35, naturalmente come si può dire, si enfatizza l'insuccesso, però l'insuccesso sicuramente si è stato, tutti si aspettavano un grande col PDL e non c'è stato. E il risultato, insomma, è che due partiti maggiori ce l'hanno presa in queste elezioni, da fare. Dopodiché che resti il centrodestra largamente maggioritario, anche perché in parte il cedimento del PDL è stato compensato dall'avanzata della Lega, non c'è dubbio. Franceschini, credo il dato a cui allude è il fatto che la somma dei partiti alla sinistra della PDL, certo. Ha un numero di voti superiore al 50%, che è naturalmente un fatto anche questo, cioè che più del 50% del paese abbia votato contro, se la vogliamo no, sì, ma che i partiti, che non ci sia nessuna coalizione che in Italia, nessuna somma di partiti. L'aspetto politico, sì, aspetti, c'è un aspetto certo. Politico di grande debolezza. Il centrosinistra non è che sul piano politico resta molto debole, anche perché è un anno che non fa opposizione, è un anno che non ha una strategia, è un anno che non ha un coordinamento, un'alleanza, quindi tutto naturalmente resta. C'è però questo fatto che forse non ci si aspettava, che prendendo invece sociologicamente il voto e dividendolo nei due campi, sono due campi pari, anzi leggermente più forte. Poi bisogna vedere naturalmente che giudizio si dà sull'UDC, no? Perché se sposti l'UDC a destra o a sinistra cambia. Ma secondo me mettere il campo del governo e delle opposizioni da una parte e dall'altra è un'operazione con il premio di maggioranza, un'operazione che un po' non ha senso da un punto di vista. No, ma non ha senso da appunto, però quello che ha senso insomma è che anche le opposizioni si rendono conto che si può ricominciare a fare politica, insomma non è che l'Italia è un paese bloccato dove c'è un centrodestra e che tramortisce il centro-sinistra, dove i rapporti di forza sono assolutamente sbilanciati, non è così, è un paese dove ci sono rapporti di forza bilanciati, dove si può fare politica, dopodiché non è che improvvisamente è cambiato il centrodestra al governo, c'è una maggioranza larghissima, c'ha praticamente due soli partiti, quindi è anche semplice diciamo il rapporto, perché sono PDL e Lega, non c'è altro, quindi sì, sono grandi rapporti di forza e governeranno tranquillamente, non è che è in crisi il governo. Senta, cosa la sorprende di più oppure non la sorprende per niente? L'8% di ritardo dei valori oppure il fatto che ancora una volta la sinistra, diciamo cosiddetta radicale, anche se poi è un'espressione bruttissima, divisa in due, non raggiunga il quorum del 4%? Beh, no, non mi sorprende nessuna delle due cose, che non mi sorprende, l'Italia dei Valori ha avuto un successo straordinario, ha raddoppiato i voti, e non succede frequentemente in politica che una lista elettorale raddoppi i voti in un solo anno, però in questo caso i sondaggi lo avevano già detto e quindi uno si sorprende di meno. Sulla sinistra radicale, si sa, non è che sono molto sorpreso, io non pensavo proprio che arrivasse al quorum, si è presentata con due liste diverse. Io credo che fosse anche necessario, guardate che quelle due liste sono più diverse di quanto non si creda, perché sì, una delle due liste è ancorata proprio a valori, è piantata per dire il comunismo esiste, il comunismo esiste, il comunismo esiste. L'altra si pone il problema di trasferire la sinistra radicale in un campo più ampio, tornare a far politica, tornare a pensare al governo, a pensare alla trasformazione, alle riforme, eccetera. La differenza è molto più forte di quanto si pensi. Io credo che io ero favorevole a che si presentassero insieme le due liste, però insomma le differenze sono così grandi che alcuni processi è giusto che avvengano, poi sì, anche un po' dolorosi. Anche perché poi si va insieme per prendere 2-3 seggi al Parlamento europeo, forse è meglio avere non una. È che cambia molto, sì. Diciamo, se si prendevano 2 seggi in più al Parlamento europeo, mentre adesso la vera è chiaro che tutte le forze politiche già guardano alle regionali dell'anno prossimo e poi alle politiche del 2013, diciamo, è su quello che è sulla lunghezza dei 3-4 anni che si misurano tutti oggi, non mi pare che ci sia da misurarsi sui mesi o sui mesi, no? Perché in questi mesi non è che cambierà molto. Quindi credo che sia anche giusto che le varie aree politico-culturale si diano un po' più di strategia, da questo punto di vista non mi scandalizzo. Sono un pezzo che prendo, ha avuto un risultato accettabile al 3%, forza molto piccola, non aveva rappresentanza, non aveva soldi, non è stata praticamente presente in campagna elettorale. Parte dal 3, però sa ricamminare, insomma, se ha una strategia politica, è tutto certo, lì. Tutte certo. Queste forze, se hanno una strategia politica, non sono forze indifferenti. E il centrosinistra, diciamo che mentalmente e psicologicamente, fino a ieri, pensava che pure c'era mezzo secolo di berlusconismo, invece può pensare a organizzarsi seriamente, a fare una proposta, a costruirsi un'alternativa e a vincere le elezioni. Non è impossibile vincere le regionali, non è impossibile pensare alle politiche. Questa per il centro-sinistra è una novità psicologica più che politica. Poi bisogna vedere se avrà una leadership capace di fare questo. Il punto fortemente debole del centro-sinistra, mi pare, la leadership, non si capisce bene dov'è. Grazie a Piero Sansonetti. 18:54. Giovanni da Modena, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Io volevo fare una valutazione su quello che è stato insomma il risultato europeo, perché insomma è l'unico dato che possiamo dare per certo, visto che amministrative, provinciali e quant'altro sono ancora work in progress, come si dice, per quello che riguarda proprio i risultati. La riflessione che faccio è quella naturalmente su una paura che ha che ha avuto la sinistra, che ha la sinistra, il centro-sinistra, il Partito Democratico, di essere vittima, insomma, come si può dire, di una sorta di incantesimo berlusconiano, ecco, il quale incantesimo sembra essere svanito nel nulla alla luce di quello che è stato un risultato europeo, perché per quello che posso aver capito, qual è questo incantesimo, mi spieghi però. L'incantesimo, insomma, il referendum che si sarebbe dovuto tenere, Berlusconi sì, Berlusconi no, perché sembrava quasi che queste elezioni avessero questo indirizzo, quasi a dover e invece? Ma invece c'è un'esigenza di natura, di carattere, quindi di dimensione europea, di dare delle risposte a dei problemi ai quali problemi evidentemente questa sinistra non riesce a rispondere. Dimensione europea, problemi che non riesco ad afferrare bene questo concetto. Questa sera la Zanzara in diretta con voi fino alle 21:45 per commentare i voti delle elezioni sia europee che locali. A Milano siamo ancora in alto mare nel risultato più in bilico, forse provinciale di Milano, 1244 sezioni su 2905, Podestà 49%, Penati 39,3. Noi andiamo a sentire come riassume il TG3. È il momento della spoglia delle amministrative, in palio importanti province e comuni, molti centri si profilano duelli all'ultima scheda. PDL deluso dal voto, i coordinatori a un calo fisiologico, non cambia nulla. Cicchitto apre ad accordi locali con l'UDC, no di La Russa. Franceschini, avanti col nostro progetto, crolla il mito dell'invincibilità di Berlusconi, il governo oggi è minoranza nel paese. Lega e Italia dei Valori escono vincitrici dello scrutinio delle europee, Bossi tranquillizza il premier, Di Pietro siamo noi l'alternativa. Nel Parlamento di Strasburgo la rappresentanza maggiore sarà dei conservatori, crollo dei partiti socialisti, entrano i pirati di internet. L'influenza messicana, sono 50 i casi in Italia, una ragazza che si è ammalata in America racconta al TG3 come è guarita. Eccoci qui, Sky TG24 in onda con una lunghissima diretta, 800 24 00 24 per chiamarci. Fuori onda al TG5 protagonista Gioacchino Bonsignore, che primo non si ricorda l'anno scorso se il PDL esisteva o meno alle politiche, e secondo si domanda se è giusto fare un paragone, ma anzi rispondendosi poi no, ma figuriamoci se lo dico in onda, con il calo del PDL tra 2009 e 2008, sentite. Ma rispetto, non ho visto rispetto alle politiche che hanno fatto, hanno perso Berlusconi, dovrebbe un po' qualcosa ha perso. No, ma era solo una curiosità. No, per capire, no, ma non glielo dico mica per dire in onda, per capire come è andato Berlusconi rispetto all'anno fa, il popolo della libertà. Ah, non c'era il popolo della libertà, c'era l'Alleanza Nazionale del fine. Coffini e la Lega, bisognerebbe vedere Alleanza, bisognerebbe vedere però Forza Italia e Alleanza Nazionale, per curiosità, capito? È solo una curiosità nostra, io non penserei mica che lo diciamo, ecco appunto. Cioè. Ma come una curiosità, il rapporto tra i voti del PDL, che c'era poi, Monsignore, c'era il PDL l'anno scorso, e del 2009 e quello del 2008, solo una curiosità? Bah, i misteri al TG5. Andiamo a sentire invece, perché è sempre meraviglioso sentire certi personaggi, Lidia Ravera, la quale dice: beh certo, siamo andati noi di sinistra, siamo andati alle elezioni molto depressi, e adesso il fatto che Berlusconi sia stato fermato, il mostro Berlusconi sia stato fermato in questa sua mania del 40-45%, è un piccolo motivo di soddisfazione, sentite. A decidere di non deprimersi, partiamo da questo presupposto, che già siamo andati noi di sinistra, siamo andati al voto depressi. Allora, cerchiamo di vedere prima il positivo. Il positivo è che Berlusconi non ha trionfato. Nella sua infinita tracotanza lo sbandierava e invece non è successo. Non ce lo facciamo bastare, ma è un buon segno. Vuol dire che gli italiani non sono del tutto manipolabili. Ce lo facciamo bastare? No, però comunque è un dato. Non lo so se qualcuno se lo può fare bastare, non c'è più il avete sentito, insomma, gli italiani non sono tutti manipolabili, c'è un 65% di italiani che non sono manipolabili, quel 35% che votano Berlusconi purtroppo sono perduti, sono gente manipolabile che si può indirizzare facilmente, che ormai è persa, insomma, il 35% degli italiani via, buttiamoli via, sono manipolati da Berlusconi. 19-22, neanche per la Lega di Dira Vera, non c'è solo Berlusconi, naturalmente la Lega ha vinto, però la Lega è estremista, è diverso, è estremista pure Di Pietro, però l'estremismo di Di Pietro è meglio dell'estremismo della Lega. La Lega è stata premiata per il suo estremismo, per la sua xenofobia. Il successo della Lega dimostra che l'Italia è un paese con la memoria corta, dimentica la sua povertà e si accanisce contro la povertà degli altri. Memoria corta. L'altro che è salita è la lista di Pietro, Italia dei Valori, e anche lì è stata premiata la radicalizzazione. Questo è sicuramente un dato più positivo, anche se ha imbarcato dei personaggi di Pietro che hanno molto ridotto la mia personale entusiasmo verso di lui. E va bene, l'entusiasmo della Ravera per Di Pietro si è ridotto, ce ne faremo una ragione. 800 24 00 24. Intanto, siccome secondo me la campagna elettorale è stata nell'ultimo mese soprattutto, ma tutta la campagna elettorale, un Repubblica, Gruppo Repubblica versus Berlusconi, su Repubblica.it leggo: Berlusconi primo nelle preferenze ma con meno voti. Il Premier puntava a 3 milioni, si ferma a 2,7, sotto il risultato del 99 del 94. Si ferma a 2 milioni 700 mila preferenze, sotto il risultato delle precedenti elezioni europee. Allora Vittorio Zucconi, uno dei leader del gruppo Repubblica, chiamiamolo così, il quale dice, insomma c'è un dato, il 65% non vota per Berlusconi in Italia. Il 65% degli italiani non hanno voluto mettere il voto, la propria croce, sul nome di Silvio Berlusconi. E ancora più grave, una maggioranza degli italiani, se ancora so fare un po' di conti sul rovescio di una busta, una maggioranza ha votato per partiti che da una parte o dall'altra, con motivazioni diverse, si dicono in opposizione al governo. Quindi sicuramente non c'è il 75% del plebiscito pro-berlusconiano. Secondo, non c'è nemmeno quel minimo che era il 40% che il partito appunto di Berlusconi, che è formato da due partiti, non dimentichiamolo, sosteneva di avere. Allora, c'è un altro concetto piuttosto bizzarro espresso in queste ore da Dario Franceschini, che è governo minoranza nel paese, attraverso uno strano calcolo, un calcolo che però insomma è abbastanza inutile fare. La somma dei partiti al governo da meno del 50%, che anche questa non è una scoperta, non è una sorpresona, ma è una cosa abbastanza normale in tutti i governi in Italia e in Europa ormai da una ventina d'anni a questa parte, a meno che non si debba governare col proporzionale puro, certo ci voleva il 50,00001%. Andiamo a sentire Dario Franceschini, appunto, il quale dice queste elezioni hanno portato di nuovo la fine del mito dell'invincibilità di Berlusconi. Sentite. Allora, io credo che il voto abbia fatto svanire il mito dell'invincibilità di Berlusconi. Io avevo detto, e mi prendo tutta la responsabilità di quello che ho detto, che il paese oggi si sarebbe potuto svegliare sotto un padrone assoluto. Grazie al voto degli italiani quel pericolo è stato scongiurato. E questo è il dato politicamente più rilevante di queste elezioni. Il padrone assoluto. Carlo ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Complimenti per la trasmissione. Volevo commentare un attimino i risultati elettorali. E io sono una persona che ha sempre votato a sinistra, telefono da Modena, città storicamente di sinistra. Io rimango sbigottito oggi a leggere e a sentire questi commenti, la Ravera che mi viene a fare questi tipi di commenti qua, Franceschini, Zucconi, che tra le altre cose deve essere anche di Modena, il mio concittadino, che mi viene a dire che il 65% non vota Berlusconi. Allora, se ragioniamo così, Berlusconi quando uscirà e mi dirà che il 75% forse di più della gente non vota a sinistra, se ragioniamo così. E poi dopo io non mi riconosco più in questa sinistra, è già la terza volta che lo dico, ma penso stavolta che veramente è la volta che davvero non voto più a sinistra, almeno a votare ci andrò sicuramente. Quando sento delle valutazioni come il mostro Berlusconi, il babau Berlusconi, ma cosa vuol dire? Berlusconi è comunque una persona che mette in campo le sue idee, e parlo da persona di sinistra, mette in campo le sue idee, io non le condivido assolutamente. La sinistra, se vuole vincersi, deve rimboccare le maniche e cominciare a lavorare seriamente con proposte concrete, non cominciare per un mese o forse anche di più sul caso Noemi o non Noemi. Ci sono dei problemi giganteschi e lo si attacca con una ragazza, ma stiamo scherzando? Cioè, io veramente non lo so, sto diventando, forse non sono più di sinistra, sono di un altro, forse sto passando dalla parte di Berlusconi, passo dalla parte di quelli manipolabili. Però anche la Ravera che mi dice che il 35% della gente è manipolabile, ma che discorsi sono? Cioè io non riesco veramente a capire, non mi riconosco più, e niente, volevo comunicare che da oggi, per quel che può importare, la sinistra ha perso un altro elettore. Sicuramente non lo guadagna Berlusconi, ma non neanche la sinistra, sicuramente. Ringrazio, buona serata. Mario da Trento, buonasera. Ah, buonasera dottor Cruciani, ma spero così, ecco, volevo dire il mio pensiero, cioè io sono uno di quelli che ha sempre votato per Forza Italia, diciamo così, no? E questa volta, quando c'è stata l'unificazione di due partiti, Alleanza Nazionale con Forza Italia, a me non è che l'onorevole Fini mi sia sempre andato giù, ma per carità, adesso ognuno ha i suoi... Vabbè, ormai mi sembra la questione superata, insomma, c'è un partito che si chiama PDL. A lei che cos'è che non va giù? Perché molti italiani, a partire dal sottoscritto, cioè io, sì, che non so, non abbiano votato sia di Forza Italia che non piaceva Alleanza Nazionale, sia Alleanza Nazionale che non piaceva Forza. Guardi, ho capito bene quello che lei vuole dire. I numeri però dicono che non è così, che sommando anche i numeri di Forza Italia e Alleanza Nazionale prima, più o meno si arriva a quelle cifre, anzi forse a qualcosa di meno. 19-29, e comunque ormai si parla al passato, Mario, non si torna indietro da nessuna parte, credo, sia per quello che riguarda il PDL sia per quello che riguarda il Partito Democratico. Vabbè, insomma, l'audio del giorno, ed è quello che riguarda Gioacchino Bonsignore dietro le quinte del TG5, come si commentano i risultati elettorali, eccolo qui. Ma rispetto, non ho visto rispetto alle politiche che hanno fatto, hanno perso Berlusconi, un po' qualcosa ha perso. No, ma era solo una curiosità. No, per capire. No, ma non glielo dico mica per due in onda, per capire come è andato Berlusconi rispetto all'anno fa. Il popolo della libertà. Ah, non c'era il popolo della libertà. C'era Alleanza Nazionale Coffini. Coffini e la Lega. Bisognerebbe vedere Alleanza, bisognerebbe vedere però Forza Italia e Alleanza Nazionale. Per curiosità, capito? È solo una curiosità nostra, io non penserei mica che lo diciamo. Ecco, appunto. Cioè. Eh no, per carità, non si deve dire. Il confronto col 2008 non si può fare. Danilo da Roma, buonasera. Pronto? Buonasera, dica. Ah, salve, buonasera dottor Cruciani, ringrazio di avermi chiamato. Senta, io mi riferisco a una trasmissione della settimana scorsa nella quale è intervenuto un giornalista del Paese di cognome italiano, signor Mora. Cognome italiano non credo, insomma, Miguel Mora. Una piccola rivincita, vorrei che, se possibile, lei lo ricontattasse, perché siccome lui si è espresso in modo particolarmente duro contro l'elettorato italiano, particolarmente di centrodestra, e considerandoci quasi un terzo mondo, adesso vorrei le sue considerazioni sui risultati delle votazioni in Spagna, dove Zapatero è stato abbastanza castigato. Ma guardi, Danilo, non mi pare. Tra l'altro, mi farebbe piacere che la nostra opposizione, io sono un elettore di centrodestra, fosse un po' più incisiva, perché anche al governo serve un'opposizione valida. Ecco, queste sono il mio intervento era su queste due. Va bene, Danilo, la ringrazio. Certamente mi farebbe piacere che. Ho capito, non possiamo richiamare Miguel Mora, lei non mi ascoltava perché stavamo parlando d'altro. Dunque non le posso fare questa cortesia, non le posso fare questo piacere. Lei ci segnala, ma ormai è praticamente su tutti i mezzi di informazione, che in Spagna c'è stato un successo del Partito Popolare nei confronti del Partito Socialista. La ringrazio. Andrea da Milano, prego. Sì, pronto. Dica. Sì, buonasera. Niente, volevo fare solo una osservazione sui risultati, sui numeri, diciamo, no? Faccia pure. Ecco, diciamo così, si dice da tutte le statistiche che in Italia l'80% in questi ultimi anni ha subito pesantemente questa crisi economica. Bah. Si dice, le statistiche dicono questo, no? L'80%. E solo il 20% ha avuto attratto giovamento, diciamo, da queste politiche degli ultimi anni. Degli ultimi 8 anni in modo particolare. Io ho un'attività in proprio, da quando è andato su il centrodestra, è cominciato, diciamo, ad andare tutto male. Sì. Ora mi chiedo, dico, com'è possibile che il 50% degli italiani, io dico il 50% degli italiani vota ancora questo centrodestra, quando le cose vanno ancora male, peggio che prima. Per colpa del centrodestra. Ma guardi, gli ultimi 8 anni, infatti, gli ultimi 8 anni sono stati al governo loro. Sì. Cioè io mi chiedo questo, se solo il 20% ha tratto giovamento da questa politica, si è arricchito ancora di più. Il 20% degli italiani, non il 50%, questi 30%. Cioè noi 50% dobbiamo subire. Sì. Per colpa di questo 30%, cioè Andrea, se lei continua ancora a darci queste percentuali ci viene il mal di testa, mi sembra che siano calcoli oltre che senza alcuna base precisa, totalmente campati in aria, mi perdoni con tutto il rispetto. La ringrazio, Eugenio da Lecco, buonasera, torniamo ai risultati quelli veri, elettorali. Non, sì, buonasera, le propongo uno spunto di riflessione per dimostrare come ancora una volta sì. Assisteremo nei prossimi giorni ad un esempio di come i politici ragionano per convenienza e non per convinzione. Io credo che nei prossimi giorni il PDL si raffredderà molto rispetto alla proposta referendaria, nel senso che visti i risultati della Lega caldeggerà molto ma molto di meno i propri elettori ad andare a votare, per paura di ripercussioni ovviamente. Sì, c'è la questione di Milano che non è da sottovalutare, non che la provincia di Milano, per carità, possa contribuire a trascinare il voto per il referendum, però se si dovesse andare al ballottaggio, la Lega in qualche modo il suo candidato, che è il candidato del PDL, lo deve sostenere, non credo che preferisca perdere la provincia di Milano, per cui la campagna elettorale in Lombardia la deve fare, in provincia di Milano. Certo, è un bel dilemma per la Lega, se si dovesse arrivare ai ballottaggi in diverse a Milano, soprattutto alla provincia di Milano, come sembrano indicare i numeri, cosa fa la Lega? Io credo che il passo indietro lo farà il PDL e non la Lega. No, beh certo, il passo indietro, innanzitutto il PDL non si è ancora espresso sul referendum, anche se ci sono, come dire, c'è un'indicazione per andare a votare sì, ma non per fare campagna elettorale, lo ha detto Berlusconi pochi giorni fa, per cui insomma, bisognerà vedere. Certo, in queste condizioni il raggiungimento del quorum è complicato e certamente il risultato della Lega all'interno della maggioranza di governo non favorisce il raggiungimento del quorum. Prego, dica pure anche, se vuole, Eugenio. Ho sentito un tono quasi entusiastico di Franceschini dire, vantarsi di essere il primo partito della sinistra europea. Peccato che le altre sinistre, pur perdendo un sacco di voti, sono capaci in pochissimi anni di rigenerarsi e ripresentarsi alla pari con gli altri schieramenti di centrodestra. In Italia questo non succede. Non mi pare sia un grande risultato quello di essere il primo partito della sinistra europea quando si è perso il 7%, però ci sono, come dire, valutazioni molto discordanti su questo 7%. Leggo da alcuni osservatori anche molto attenti, insomma, il PD ha superato la soglia di sopravvivenza, secondo altri invece è stato importante fermare Berlusconi. Di critiche almeno 7% rispetto alle elezioni politiche ne leggo molto poche, ne ascolto molto poche. Luca dalla provincia di Ferrara, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, e sempre complimenti per l'intelligenza e l'equilibrio. Dica. Io faccio parte di quel 75% che non ha votato per il PD, e visto che sono un elettore leghista da non dell'ultima ora, da parecchi anni, volevo sapere se magari il nostro 10% ottenuto, secondo i signori della sinistra, siamo anche noi a rischio manipolazione, siamo anche noi in qualche modo manipolabili o futuramente manipolabili, visto che siamo vicini a Berlusconi, che è descritto come il demonio. Ecco. No, voi siete xenofobi, se lei si riferisce al giudizio di Lidia Ravera, che abbiamo ascoltato prima, esatto. Voi siete xenofobi estremisti, insomma, c'è da essere preoccupati per questo 10%. Vabbè. È noi così. Non siamo molto preoccupati. Ma nemmeno io, però cosa vuole che le dica? Qualcuno è molto preoccupato. Oggi ero in un ristorante a Milano, all'ora di pranzo, e c'era un crocicchio di persone che aspettavano di entrare in questo ristorante, e mi ero messo un po' così a curiosare, no? E tutte persone che più o meno votavano Partito Democratico, eccetera, eccetera, c'è chi ha votato Rifondazione, chi Bendola, eccetera, e uno di questi diceva: certo che fa paura Bossi al 10%. Questo è l'atteggiamento. La ringrazio, Luca. Buona serata. Luca, un altro Luca da Milano, buonasera. Sì, buonasera. È veramente divertente sentirle queste telefonate, perché mi fanno preparare ancora meglio il piccolo intervento che devo fare. Ma guardi, io ho finito ieri sera, anzi oggi pomeriggio praticamente, lo spoglio per le, anzi ieri sera direttamente, perché poi il comune era piccolo, un comune ligure, per lo spoglio per le europee. E il fatto è che c'è stata una disparità fra i risultati delle europee di ieri sera e quelli comunali di oggi. Io mi rifaccio a quello che ha detto stamattina Bonaiuti, che dice che effettivamente molto spesso quando si vincono poi le europee non si vincono le comunali, eccetera. Allora, visto che io sono sempre, parlo per conto ma ho fatto rappresentante di lista per il PDL, mi sono reso conto di una cosa, che purtroppo nella storia del Partito Democratico, e prima Partito Comunista, Socialista, una frangia del Partito Socialista che poi ha scelto di prendere un'altra strada, eccetera, comunque c'è una maggiore organizzazione di persone, questo è innegabile. Quindi se voglio essere utile a qualcuno in questo momento, dicendo: cari signori, siamo ancora in maggioranza, siamo ancora, c'è ancora la possibilità di lavorare, ma comunque qualcosa dobbiamo imparare, e imparare significa creare veramente la cosiddetta base, perché io mi sono trovato fisicamente a parlare con persone, andare a fare tutti i fine settimana una riunione, eccetera, dove il numero delle persone si assottigliavano man mano che ci si avvicinava alla metà del tempo che c'era fra l'inizio di queste riunioni e poi effettivamente alle elezioni. Luca, mi sfugge un attimo, però mi scusi, mi sfugge un po' il nocciolo del suo intervento. Cosa ci vuole dire lei? Ma il nocciolo è questo, cioè che ci possono essere, sicuramente ci sono state delle disparità fra le europee e le comunali. È normale, le europee c'è una lista con i partiti da votare e con le preferenze da dare, dall'altra parte ci sono gli uomini, le persone, i programmi e le realtà amministrative diverse. Io conosco decine e decine di persone che alle europee hanno votato in un modo, alle amministrative magari quel presidente della provincia ha fatto bene, quel sindaco ha fatto bene, perché nonostante una preferenza politica più generale verso la sinistra, la destra, per semplificare, insomma, questo mi pare una cosa, insomma, da decenni ormai funziona così più o meno, no? Sì, funziona così proprio per questo motivo, perché nella parte del centro-sinistra, la sinistra prima. No, per tutti meglio... funziona così, non è che funziona solo per il centro-sinistra o per il centro-destra, funziona così per tutti, cioè... Il voto di Milano, anche se Podestà non raggiunge il 50%, da questo punto di vista è significativo, nonostante una forza preponderante in provincia di Milano a favore del PDL, insomma non c'è la vittoria al primo turno per il PDL. Questo perché? Perché evidentemente contano anche i candidati, o no? Assolutamente, no, i candidati allora... di sicuro, ma sono anche le persone che poi devono partecipare alle liste, quindi il mio senso e l'unica cosa che volevo effettivamente che passasse nell'intervento, visto che stiamo parlando con qualche milione di persone in Italia, è che gli elettori di centrodestra devono diventare più uniti fra di loro e lavorare, non solamente ascoltare. Non so che cosa vuole dire, e poi se a uso degli elettori del centrodestra, dei militanti del centrodestra, insomma, magari un intervento un po' limitato. Abbiamo 30 secondi oppure no? Non c'è la pubblicità di 30 secondi. Allora andiamo subito con Stefano Cappellini, vice direttore del Riformista. Buonasera. Buonasera a voi. Stefano, il risultato delle elezioni europee, restiamo a questo, anche se poi qualche valutazione potrebbe modificarsi, anche se non credo, da quello che leggo dopo i risultati delle elezioni amministrative, in particolare di quelle provinciali. È più Berlusconi che non arriva al 40%, perché forse ha alzato troppo l'asticella negli ultimi giorni di campagna elettorale, i suoi sondaggisti hanno sbagliato qualcosa, oppure il risultato del Partito Democratico non si riesce a valutare, perché in altri momenti perdere il 7% sarebbe stata una catastrofe, adesso invece non c'è nessuno che insista su questo punto, tranne qualche dirigente qua e là. Sì, guarda, io credo che sia la prima che hai detto. Io penso che per una volta, insolitamente, Berlusconi abbia sbagliato i conti e si sia fidato di sondaggi sbagliati. Non so se perché gli sono stati commissionati, presentati dei numeri errati o se sono stati male interpretati. Però la verità molto, molto banale, secondo me, è che il PDL avrebbe fatto bene a non alzare l'asticella, appunto, a non fissare alcun tipo di aspettativa e a lasciare i riflettori puntati su quella che in sé è sicuramente una pesante sconfitta del Partito Democratico, perché il 26%, che significa 7 punti in meno rispetto alle politiche, che significa un arretramento verso livelli che non si pensavano potessero appartenere a un partito come il PD, sono sicuramente risultati molto negativi, e non ci fosse stata la sorpresa per quel 35%, sorpresa preparata di fatto dagli stessi leader del PDL che invece sì, sognavano e dichiaravano cifre superiori al 40, non ci fosse stato questo, avremmo parlato solo del PD. E quindi si è trattato evidentemente di un errore di strategia politica, di comunicazione, insolito, ripeto, perché negli anni anzi Berlusconi aveva imparato a stupire in senso contrario, magari dando delle cifre che a tutti sembravano sballate prima delle elezioni e che poi invece nelle urne si rivelavano reali, veritiere. Stavolta è accaduto il contrario e inevitabilmente i riflettori si sono puntati su quel 35%, perché è quella la sorpresa, mentre il 26% del PD, ripeto, risultato molto negativo, era invece comunque ampiamente nelle previsioni. No, quindi assolutamente, credo... gli ascoltatori che ci dicono, beh, insomma, insistete troppo su questo disastro comunicativo di Berlusconi, di cui parliamo da giorni, in fin dei conti il 35% è un risultato importante, le elezioni europee sono cose diverse, le elezioni politiche, non esiste in Europa nessun gran partito che ha questi numeri, sono cose tutte vere, però bisogna considerare un aspetto che prima ha toccato Cappellini, di cui parliamo in realtà da giorni, che è questo, l'aspetto psicologico, non è un aspetto, ogni elezione fa storia a sé, non ci sono solo i numeri, l'aspetto psicologico è importante, dunque Berlusconi che dice io sicuramente prendo il 40-45%, insomma, e poi c'è quel 35% stampato lì. Questo. Posso aggiungere anche un altro aspetto, io sono d'accordo assolutamente, la psicologia in politica e non solo in politica conta molto. Aggiungerei però un altro aspetto che invece ha meno a che fare con la comunicazione. Sì. È anche vero che, e qui torniamo invece alla politica pura, che in ogni caso al di là delle asticelle il PDL non ha sfondato nel consenso anche come perno di una maggioranza di centrodestra che arriva insieme alla Lega al 45%, mentre invece le attese erano per uno sfondamento complessivo del centrodestra, si pensava che le urne restituissero un centrodestra per una volta capace di andare oltre la fatidica soglia del 50%, cosa che non avviene da tantissimi anni, praticamente nei tempi della Democrazia Cristiana, che una maggioranza di governo non ha realmente solo il 50%. Sembrava che questa fosse la volta buona, perché oggettivamente il primo anno di governo di Berlusconi, pur con qualche intoppo, però era filato via abbastanza bene e sembrava che i numeri fossero positivi, non solo quelli del PDL, ma appunto della coalizione. In realtà la coalizione si è fermata prima e il campo delle opposizioni non è così lontano, ovviamente il campo delle opposizioni non è lontano. È frastagliato però, insomma. Il 2% ovviamente non si intravede alcuna barlume di alternativa in quel campo, perché è composto da forze totalmente eterogenee, alcune delle quali non hanno alcuna intenzione di allearsi l'una con l'altra, quindi quel 42% al momento è politicamente inservibile, però restituisce l'immagine di un paese di nuovo spaccato in due e non con una netta maggioranza al centrodestra. Questo sicuramente. Cos'è che a un certo punto si è inceppato in una storia iniziata con più o meno la soluzione della vicenda della spezzatura a Napoli, almeno dal punto di vista sicuramente della comunicazione e poi anche concretamente sul territorio, con insomma un attivismo sul terremoto in Abruzzo, anche con alcuni risultati almeno nell'immediato, il 25 aprile un'azione di governo ritenuta quantomeno efficace da un punto di vista concreto e comunicativo, con un consenso che aumentava. Cosa che si è inceppato a un certo punto? Può essere solamente queste vicende, diciamo, che riguardano la guerra tra il gruppo Repubblica e Berlusconi, oppure no? No, io non lo credo questo, non lo credo, non penso, io non credo che l'effetto Noemi, per dirla chiaramente, abbia avuto un grande effetto sulle urne. Io penso che sia mancato il colpo di reni, cioè penso che una parte dell'elettorato non sia andata a votare, di elettorato berlusconiano non sia andata a votare non per particolare malumore nei confronti di questo governo, ma forse perché è mancato comunque quel di più che poteva legittimare una partecipazione più ampia, sì, poteva spingere a offrire a Berlusconi quel plebiscito che chiedeva, in fondo, che ha chiesto esplicitamente. Sì. È vero che il governo è partito molto bene, è anche vero che forse è mancata una continuità nell'azione, perché dopo il caso Spazzatura, dopo il caso Alitalia, non si sono più visti grossi scatti del governo, anche sulla crisi c'è stata una gestione molto conservativa, forse era l'unica possibile, però non si sono viste grandi, non sono state messe in opera grandi manovre, non si sono viste grandi riforme, anzi, insomma, in qualche modo il governo forse negli ultimi mesi ha dato un'impressione così di quieto vivere, sì, sì, che probabilmente ha tolto quell'entusiasmo che poteva portare alle urne un po' di elettori in più, che non per questo sono diventati anti-berlusconiani, però insomma per il fatto di non aver votato alle europee. Quindi bisogna dare una lettura equilibrata, secondo me. No, sì, assolutamente, anche perché insomma l'astensionismo soprattutto al sud insomma, ha pesato parecchio, almeno sul PDL. Grazie a Stefano Cappellini, grazie, buona serata. 19:53, proseguiamo con gli ascoltatori e andiamo a Torino da Angelo. Buonasera. Sì, buonasera. Io sono un elettore del PDL, sono berlusconiano. Ma anche se può sembrare paradossale, devo dire che non mi è dispiaciuto il fatto che non ci sia quell'annunciato sfondamento. E questo per due ragioni, sia perché finalmente la sinistra dice che non c'è più, che è stato scongiurato questo rischio di regime assoluto, ma anche perché certi risultati dovrebbero consentire ad un governo di fare un po' di autocritica. Per esempio, pur essendo berlusconiano, io per esempio non approvo determinati atteggiamenti di Berlusconi quando si lancia troppo in determinate ottimistiche previsioni, oppure quando a volte vuole strafare, esagera un po'. Insomma, essere berlusconiani e respingere alcune caratteristiche del berlusconismo mi sembra un bel paradosso, no? Sì, no, infatti ho fatto questa premessa, può sembrare paradossale, ma questo dalla prova che non tutti i berlusconiani sono così monopolizzati, cioè io posso approvare certe scelte del governo, no, però ma certo, sul carattere, diciamo, allora più che berlusconiano lei è un elettore del centrodestra, insomma. Ecco, diciamo così. Ecco, vabbè, Angelo, la ringrazio. Andiamo a Cuneo. Roberto, buonasera. Buonasera, Cruciani. Io, al di là di tutte le considerazioni su di chi ha vinto, chi ha perso, trovo inquietante il dato di affluenza alle urne. Quindi noi ci troveremo con un Parlamento europeo in realtà poco rappresentativo. Lei parla dell'afflusso generale in Europa. Certo. Quindi trovo molto più interessante e preoccupante questo dato. Poi che il Berlusconi abbia detto 40, abbia ottenuto 35, questo è il teatro delle marionette, il Franceschini che dice noi abbiamo ottenuto, e sono le solite, commenti di bassissimo profilo che abbiamo noi in Italia. Però caspita, noi ci troveremo con una struttura parlamentare costosissima, un grosso carrozzone di 29 paesi, quindi con lingue diverse, con un carrozzone pesantissimo. E lei dice anche poco rappresentativo, perché si abbassa sempre di più il numero di persone che vanno a votare per il Parlamento europeo, ma non è una considerazione da poco e la ringrazio per averla fatta. TG5. Il PDL si conferma primo partito in Italia con il 35% e passa da 24 a 29 eurodeputati. I democratici scendono al 26% e ne eleggono 22, due in meno rispetto al 2004. La Lega vola al 10% e l'Italia dei Valori sale all'8%. Bene l'UDC al 6,5%. Tutte le altre liste non raggiungono la soglia del 4%. Il PDL, siamo stati penalizzati dalle astensioni, ma il nostro è il miglior risultato in Europa. Franceschini, c'è un calo, ma il progetto continua. Berlusconi, primo per preferenze in tutte le circoscrizioni, ne ha ottenute oltre 2 milioni e 700 mila. In Europa crollano i socialisti, avanza il centrodestra. In corso lo spoglio per le amministrative, avanza il PDL in testa al nord e a Napoli. Il PD tiene in Emilia e in Toscana. Questo era il titolo unico praticamente del TG5. Qualche commento anche sulla scelta del TG5 di impostare la prima pagina in questo modo, sul successo, secondo il TG5, del PDL, che è il primo partito in Europa, avete sentito, da 24 a 29 deputati, mentre il PD ne perde due. Andiamo a sentire deputati europei, naturalmente. TG1. Elezioni provinciali, il PDL avanza al nord e in Campania, il PD tiene al centro, a Milano Podestà in testa, Bologna e Firenze a sinistra. Il voto europeo conferma la leadership dei popolari nel Parlamento dell'Unione, crollano i socialisti, avanzano i partiti xenofobi. Il PDL, nostro progetto ora più forte, a Berlusconi 2 milioni e 700 mila preferenze, la Lega premiata politica sul territorio. Franceschini, il calo c'è stato, ma centrati i nostri obiettivi. Di Pietro, noi alternativi al Premier. Casini, segnale contro il bipartitismo. Palermo, durante una festa, bimba di 4 anni si perde in albergo e precipita dal quarto piano. I genitori indagati per omesso controllo. Recuperato il timone di coda dell'Airbus precipitato nell'Atlantico. È fondamentale per spiegare il disastro. Non ci sono tracce di esplosione. Va bene, abbiamo anche la 7. Sentiamo come riassume. Europee, Berlusconi e il PD in retromarcia, successi per la Lega e per l'Italia dei Valori, bene l'UDC, in corso lo spoglio per le amministrative, sulla 7 un'intera serata dedicata a partire da questo TG alle 8:30 della maratona ad analisi e aggiornamenti sui risultati del voto. Tragedia in un hotel di Palermo durante la festa per una prima comunione, una bimba di 4 anni apre una finestra e precipita nel vuoto, muore sotto gli occhi della madre, forse si era smarrita mentre giocava con alcuni coetanei. La Bond Girl ideale muore con i capelli lunghi, e quanto emerge da una ricerca, pensate un po', dell'Università di Cleveland, che ha passato al setaccio 20 film e 195 donne del celebre agente segreto, insomma 007, piacciono le more. Da ultimo, in attesa di conoscere la sorte di Kakà, la capitale sotto i riflettori, l'allenatore degli Orossi lascia polemicamente la panchina della Lazio, mentre la Italpetroli, società dei sensi che controlla la Roma, fa sapere che non è stata ancora formalizzata alcuna offerta d'acquisto per la squadra. Ciao. Va bene, alle 20:04 minuti, ripeto, questa sera diretta fino alle 21:45 per commentare insieme i risultati elettorali. Gli spunti sono moltissimi, come avete sentito anche dai titoli dei tre principali telegiornali. Torniamo subito agli ascoltatori, non prima però di avervi detto che ormai si sanno le preferenze anche gli eletti al Parlamento europeo, poi ci sarà la questione delle rinunce, dunque ancora in realtà ci sono gli eletti formalmente, poi Berlusconi e altri rinunceranno, quindi subentreranno quelli che vengono successivamente nelle varie liste. E beh, insomma, senza bisogno di riconteggio eccetera, è stato eletto. Torna dunque in un Parlamento, dopo aver abbandonato quello nazionale, Clemente Mastella, che avevamo lasciato a quelli che è il calcio con Belen, sentite. Simona, sì. Posso fare i complimenti a Belen? Certo! Molto carino, confesso, molto carino. E mi pareva, scusami. Infatti la volta prossima non mandarmi con Biscardi, mandami Belen. Visto che è libera, mi pare. Peraltro tenendo conto che mi pare sia libera, lo so, da quello che ho ascoltato mi pare che sia libera. No, ma poverina, è libera, non lo so, sono libero io, però insomma non è libero lui. Ecco, sei libera, chiede il premio, ne arriva una stella. Ma no, sono impegnatissima fino alle 6 del pomeriggio, poi si vede. Io arrivo dopo le 6. Mastella ritorna con decine di migliaia di voti al Parlamento, quello europeo a Strasburgo, nelle file del PDL. Giulio da Chieti, buonasera. Sì, buonasera. no comment su Mastella, preferisco... Perché no comment? Che succede? Per carità. No comment. Chi le ha fatto Mastella? Come? Chi le ha fatto Mastella? Preferisco non commentare. Non commenti, allora, mi sembra un politico lei. L'oggetto, cioè. No, l'oggetto della mia telefonata era un altro, per cui... Va bene. Però a dire no comment per me è più che sufficiente. Sì. Allora, io sono tra quelli che pensa che per Berlusconi sia iniziata la parabola discendente. Tra qualche mese ne vedremo delle belle, secondo me, perché verrà fuori la Lega, che è giusto che venga fuori con i voti che ha preso, ma soprattutto ha pesato e pesa ancora di più la posizione del Presidente della Camera Fini. Secondo me, ripeto, assisteremo alla disgregazione, non proprio disgregazione, ma comunque si inizierà a vedere, assistere a diverse crepe. Per quanto riguarda, anche se poi c'è i vari La Russa, l'ex ministro delle telecomunicazioni che si dannano a dire che tutto è a posto. Il declino di Berlusconi, va bene, Giulio. Sì. È chiaro però che a questo punto il centrosinistra deve ricercare una leadership che sia autorevole, che sia nuova soprattutto, e contemporaneamente finalmente cercare delle alleanze possibili, magari anche al centro, perché sennò diversamente non si vede dove possa recuperare voti, anche se una parte di quelli di Di Pietro nelle politiche torneranno sicuramente al Partito Democratico. Questa è una mia analisi così in poche parole. Va bene, Giulio. Poi se mi permette vorrei contestare la sua ripetuta puntualizzazione del meno 7% del PD. Lei puntualizza sempre su quello che ha detto Zucconi, ha fatto sentire diverse volte che ha parlato del 65% che non ha votato Berlusconi, ma credo, anzi sono sicuro, che quella vuole essere un'analisi più generale, e invece insiste nel dire appunto di questo 7%, senza precisare che nel 7% c'era sia Di Pietro che i radicali. In quale percentuale? Mi scusi. Lei dice che il Partito Democratico ha avuto un calo, una flessione del 7%. Insomma, rispetto alle politiche, rispetto alle elezioni politiche. Alle elezioni politiche bisogna considerare i radicali, certo, all'interno e del... Di Pietro che c'è? Di Pietro si è presentato una lista sua, abbia pazienza. Comunque, è una cosa diversa, è una cosa diversa. Vabbè, comunque già il Partito Radicale aveva una sua percentuale che sì, ma per carità, bisogna calcolare tutti. Io sto dicendo il Partito Democratico, così come si era presentato alle elezioni del 2008, ha preso il 7% in meno adesso alle elezioni europee. Sì, certo, c'erano i radicali. Allora bisognerebbe pure fare il calcolo del Movimento per l'Autonomia dall'altra parte. Ripeto, PD, simbolo PD, elezioni 2008, 32 rotti, 33, quello che era. Questo è il momento per cambiare, per invertire la rotta. E dunque allearsi con che cosa? Lunghi. Allearsi con chi? Con l'UDC? Ma io adesso, ripeto, così non è né facile né mi compete. Però siccome vanno recuperati i voti, è chiaro che bisogna cercare delle alleanze che serie. Ho capito. Dove si vanno a recuperare i voti? La vedo complicata con Di Pietro, però, insieme all'UDC. La ringrazio, Giulio. Ma anche Di Pietro dovrà fare un passo indietro, se è vero che vuole, un passo indietro. Vuole tornare a governare. D'accordo, grazie. Grazie, Giulio. 29 minuti. Prima della pubblicità andiamo con Milano. Emilio. Buonasera. Dica. Mi riferisco a quanto affermato da Sansonetti circa il fatto che il Popolo delle Libertà avrebbe perso 4 milioni di voti rispetto probabilmente alle politiche. Lei l'ha corretto dicendo no. No, ma non sono 4 milioni, non so quanti voti abbia perso. Saranno 500 mila, un milione, non lo so. Mi faccia dire, è l'errore di metodo che viene usato per far credere delle cose diverse. Perché non è possibile fare il confronto sui valori assoluti quando ha votato, non so, un 20% in meno delle persone. No, lei certo. Correttamente faceva prima delle cifre e le faceva in percentuale. Sansonetti non le ha fatte in percentuale, le ha fatte in valore assoluto. Lei tra l'altro non ha contestato, perché questo è il modo errato di far credere. Non ho contestato, ho detto non mi sembra che si possa parlare di 4 milioni di voti in meno rispetto alle altre elezioni. Massimo da Siena, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, Massimiliano intanto, buonasera a Cruciani. Volevo solo fare una puntualizzazione, io ogni tanto l'ascolto, non ho possibilità di sentirla regolarmente, però quelle volte che mi capita di ascoltarla rilevo abbastanza regolarmente alcune situazioni dove lei, mi perdoni il termine, abbastanza in modo astuto e furbo, fa delle puntualizzazioni su alcuni temi che la interessano in modo particolare probabilmente. Un esempio, questa sera mi è capitato di sentire, mentre intervistava il suo ospite, non mi ricordo il nome, mi perdoni, che ha affermato che nonostante ci sia stato un anno, mi perdoni il termine, di luna di miele tra il governo Berlusconi e il popolo italiano, per cui questa gran soluzione dei problemi di Napoli, questo grande attivismo del presidente, questa risoluzione. Io parlavo di sondaggi, i sondaggi erano favorevoli, non sto dicendo ha fatto bene, ha fatto male. Fa delle affermazioni che comunque vengono date per buone a un certo punto. Ma non c'è nessuna affermazione, io ho detto semplemente che tutti i sondaggi. Scusi, vengono date come dei messaggi precisi in cui uno. Ma non c'è nessun messaggio, Massimiliano. Facciamo un esempio, scusi, e mi faccia finire. Dica. È stato risolto il problema dei rifiuti a Napoli, lei questo ha affermato, l'ha dato per buono. Io non ho detto questo, tra l'altro. Ha ragionato sul fatto di come mai comunque il governo non abbia riscontrato Non ho detto questo io, Massimiliano. Lei dà un'interpretazione assolutamente personale a quello che ho detto, va bene così, va davanti. Lei introduce un tema, mette un'ipotesi, la dà per scontata e su quell'ipotesi arriva. Ma chi ha detto? Io non ho detto nulla del genere. I rifiuti di Napoli, per esempio, che nonostante sono stati risolti, non si capisce come mai in conseguenza. Ma io non ho detto questo. Adesso non si può riascoltare. Ho detto semplicemente, sembrava che il governo fosse arrivato con un alto consenso fino a un certo punto. Ho chiesto al mio interlocutore cosa è successo da qualche mese a questa parte che ha fatto diminuire i consensi poi nelle urne al governo. Questa era la domanda, non c'era nessun giudizio, ha fatto bene, ha fatto male Berlusconi, sembrava da tutti i sondaggi eccetera eccetera che ci fosse un periodo positivo per il governo anche per alcuni risultati ottenuti, tra cui la soluzione del problema dell'immondizia a Napoli, anche se ho precisato soluzione che certo non definitiva eccetera, insomma non mi volevo addentrare nei singoli temi, Massimiliano, ho detto che dopo un periodo di successi anche mediatici del governo poi negli ultimi mesi qualcosa non ha funzionato, questa era la domanda, non mi sembrava un giudizio, come dire, non mi sembrava di incensare il governo, abbia pazienza. Io le dico, negli ultimi mesi non è successo niente, è dal primo momento che non è stato risolto il problema dei rifiuti a Napoli, che se ne dica che venga rappresentato da tutti i giornali. D'accordo, non è stato fatto nulla. No, non è che non è stato fatto nulla, è che i problemi non sono stati risolti. L'attivismo è stato fatto solo in una direzione, che è quella che interessa probabilmente a qualcuno e non al resto del paese. Certo. Il problema del terremoto in Abruzzo probabilmente non è stato risolto così come si lascia passare, si lascia intendere. Io credo che questo sia il vero punto di vista. Sì. E che il problema è che in questo momento in Italia non si sa più veramente chi andare a votare. È un problema grave questo, certo. Ma non sa lei chi andare a votare, la gente ha le idee ben chiare. C'è sempre più persone rinunciano ad andare al voto. Solo per andarsene a fare un weekend. Mi risulta, l'Italia nonostante un calo di votanti per le elezioni europee mi sembra che abbia comunque un tasso molto alto rispetto ad altri paesi. Allora in altri paesi cosa dovremmo essere? Alla fine della democrazia, ma le ha viste le cifre negli altri paesi oppure no? Assolutamente, io guardo il mio paese, cosa succede guardi il suo paese, confronti le cifre dell'affluenza in Italia con quelle dell'affluenza negli altri paesi e forse può fare qualche riflessione che non sia quella della fine della democrazia, oppure la gente nessuno vuole arrivare a dire che la gente non sa chi andare a votare, lei non saprà chi andare a votare. È abbastanza palese. Massimiliano, lei non sa chi andare a votare, le altre persone sanno chi andare a votare, abbia pazienza. Le persone che sono andate a votare sanno chi andare a votare. No, ma tanta gente non va a votare perché ha veramente perso Non è vero, ma guardi l'affluenza del 70% andava a votare, quante persone adesso bisogna tanta gente, non è vero che tanta gente c'è da dire che in queste elezioni c'è stato anche un abbinamento con le elezioni amministrative che probabilmente provoca molto più interesse rispetto a tanti altri paesi dove non so in che condizioni di parallelismo di voto sia andato. Si può fare una considerazione che riguarda in generale il mio appunto vuole essere su tutto un altro tema, che è quello di dire che tante ipotesi che vengono portate come per certe, per quello che percepisco io, poi magari mi posso sbagliare, nei suoi ragionamenti Io gliele contesto dalla prima all'ultima, perché su tre esempi che ha fatto, sì, quello dei rifiuti in Campania, del terremoto in Abruzzo e dell'attivismo del governo, non ho ben capito verso quali obiettivi, secondo me sono tutti tre punti nei quali non si possono portare. Ma secondo lei ha fatto malissimo il governo? A favore di una tesi, domandandosi il perché questo governo non abbia colto tutto quello che si poteva aspettare da queste elezioni. D'accordo. Punto. Semplicemente questo. D'accordo. I dati delle provinciali di Milano, che sono forse quelli più appassionanti da un certo punto di vista, soprattutto per ballottaggio sì, ballottaggio no, sono fermi da una ventina di minuti, intorno a 1273 sezioni. Pensate, è incredibile questo dato che viene da Milano, dove ancora non ci sono risultati definitivi. Comunque 1273 sezioni su 2905, cioè non siamo nemmeno a metà, e c'è sempre 49,1% Podestà, Penati 39,2%. La mia personale previsione, a meno che poi non arrivino dei dati concentrati in alcuni quartieri o in alcune zone della provincia di Milano, è che si andrà al ballottaggio, e al ballottaggio tutto può accadere. Ricordiamo infatti che Penati vinse proprio al ballottaggio, anche se in una situazione completamente diversa, perché c'era un candidato leghista. Però bisogna considerare che c'è la questione del secondo turno, cosa farà la Lega, perché c'è anche, come sapete, il referendum. Bene, 800 24 00 24, siamo con Barbara Palombelli, che ringrazio, buonasera. Figurati, grazie a te dell'invito. Allora, radio, insomma, io sono sempre su Radio 2, ogni tanto... Sempre su Radio 2, 28 minuti, dove no, noi rubiamo... Ho finito il 5 giugno, riprenderemo il 7 settembre, quindi sono in vacanza dalla radio. Noi rubiamo a Radio 2, 28 minuti, in particolare un sacco di cose, perché la Zanzara ruba degli audio ovunque, e moltissime interviste di Barbara Palombelli, noi ogni tanto rubiamo qualche audio. Beh, ogni tanto c'è qualche provocazione che esce fuori, qualcosa di significativo, noi lo mettiamo dentro nella discussione serale. Allora, chiedo a Barbara Palombelli, come si fa ad alzare, da un punto di vista proprio di comunicazione, di alzare l'asticella dell'aspettativa di consensi, come ha fatto Berlusconi, al 40-45% e poi ritrovarsi col 35%? Cioè, non è un grave errore, insomma, anche di comunicazione, un disastro comunicativo o no? Ma mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente lui lo vivrà così, perché mi sembra che dai primi commenti, no, dei giornali amici e dell'entourage c'è questo, c'è la solitudine, no, di un leader che si è sentito colpito proprio sulla questione privata. Ma non mi sembra, perché poi se guardiamo ai dati in maniera un pochino più freddina scopriamo che Lega e PDL hanno una maggioranza veramente enorme, e così come scopriamo che poi alla fine il PD, se si unisse a Di Pietro e ai radicali, avrebbe quello che aveva, o comunque siamo sempre là. La sensazione più forte che io ho oggi è che quando gli italiani sono lasciati liberi, e il voto più libero di tutti è proprio quello per le europee, bocciano il bipolarismo, che invece gli vogliamo imporre dal 91, diciamo, a cazzotti. Cioè, l'italiano non ama il bipolarismo, evidentemente, nonostante tutti i segni, nonostante tutti i referendum, nonostante tutto, gli piace scegliere, per esempio votare Emanuele Filiberto, De Mita e Magdi Cristiano Allam nella stessa lista, che, devo dirti la verità, io credevo di avere visto tutto a 55 anni, di cui 40 a guardare la politica, giuro sui miei figli che non pensavo di vederli insieme da nessuna parte, neanche a cena. E invece no, il partito più moderato di tutti, il partito che si ritiene, cioè, ha messo insieme queste tre persone. Insomma, la politica mi dà sempre un sacco di energia e di emozioni. Magari saranno eletti tutti e tre, eh? Magdi Cristiano Allam già ho visto che è stato eletto. Ma non lo so, mi sembra anche De Mita, e gli faccio molti auguri, perché a 81 anni prendere 12 aerei al mese andando avanti e indietro vuol dire che è sempre un ragazzaccio, e mi fa piacere, anzi gli mando veramente degli auguri sentiti in nome di una vecchia amicizia. E poi appunto il principe di Savoia, non so se è entrato o no, ma penso di sì. Voglio dire, ecco, un gruppo composto così, diciamo, che altro vuoi dalla vita? Assolutamente. Invece un'altra cosa, un'altra domanda è questa: si può perdere il 7% ed essere contenti? Succede anche nel questo. Nel senso di Dario Franceschini? Sì, del Partito Democratico. Del Partito Democratico. Ma merito di Berlusconi il fatto che questo risultato... Anche questo è molto singolare, perché diciamo poi ci sono le elezioni percepite e le elezioni vere, no? Appunto, le elezioni percepite sono che è stato quasi un miracolo quello della tenuta del PD. Evidentemente pensavano tutti a un risultato veramente... In realtà appunto un anno fa c'era il 33, ma soprattutto... il Rutelli Fassino del 2004 già segnava 31 in un momento difficilissimo, sì, con Berlusconi al governo anche lì, trionfante, tutto. Quindi, insomma, mi sembra che il Partito Democratico abbia fatto una lunga campagna elettorale a favore di Antonio Di Pietro, purtroppo. Purtroppo dico io, perché, insomma, mi piacerebbe che fossero più equilibrati i due. Dunque immagino che non ti sei sorpresa invece per l'8% di Di Pietro, né per il 10% no, della Lega. No, sinceramente ti vorrei dire che sono addolorata e mi vergogno anche un po' di quella sbarramento al 4% messo in corsa. Perché? Quando Perché? Era difficile per i piccoli partiti di sinistra. Quello che sarà anche vero che è giusto mettere le asticelle di sbarramento, però proprio in un voto di opinione come quello europeo, sapere che il 9% degli italiani che sta in radicali, Rifondazione e Sinistra e Libertà fuori da tutto, ecco, quelle persone lì che sono tra l'altro quasi tutti gli amici in quell'area lì, mi sembra proprio una grande ingiustizia, insomma, perché se si faceva un anno fa lo sbarramento, magari si trovavano in modo di presentarsi insieme e oggi avevano una rappresentanza legale. Non mi è piaciuta questa mossa. Bene, grazie a Barbara Palombelli, buona serata. 20 e 26 800 24 00 24, altra canna a fuoco abbiamo messo nella discussione di questa sera con gli ascoltatori. Ruben da Milano, buonasera Ruben. Sì, buonasera a lei dottor Cruciani. Dica. Io volevo adesso proprio ricollegarmi a quello che diceva la dottoressa Palombelli riguardo le elezioni percepite e quelle effettive. In Italia, ma forse anche all'estero, abbiamo questo sport di cantarcela e suonarcela un po' come vogliamo, ci sono vinti e sconfitti in base a delle valutazioni direi del tutto soggettive, però poi c'è un dato oggettivo che è quello dei voti, delle percentuali e dei voti assoluti, e di fronte a questo dato mi sembra incontestabile che il PDL abbia tenuto alla grande e che i veri vincitori di queste elezioni sono la Lega e l'Italia dei Valori. E francamente mi rattrista, perché io sono un elettore centrodestra, ma vorrei avere un'opposizione seria con la quale dialogare, e mi rattrista che un Franceschini canti vittoria, e mi rattristano fra l'altro anche le dichiarazioni che lei ha mandato in onda della Lidia Ravera, di Vittorio Zucconi. Questo un po' ci fa capire anche perché la sinistra poi questo concentrarsi, perde consenso. Questo concentrarsi sulla sconfitta di Berlusconi, sul Berlusconi che non ha avuto successo nel plebiscito, in quello che è stato chiamato il plebiscito, su se stesso. Molti dicono Berlusconi ha invocato questo plebiscito. Vero o non vero? Non lo so, secondo lei? No, secondo me poi bisogna guardare i dati effettivi, conteggiare i voti e paragonarli alle elezioni precedenti, neanche alle europee del 2004, ma proprio alle politiche, perché lì che beh, la cosa più corretta sarebbe il paragone con le europee, in realtà. Lo so che sarebbe la cosa più corretta, ma è passato troppo tempo e sono successe troppe cose. No, quello è vero, quello è indubbiamente vero. La ringrazio. 20 e 28, abbiamo la borsa, poi torniamo con tutti gli altri ascoltatori. Vi ripeto, questa sera fino alle 21.45 per ascoltare soprattutto le vostre opinioni sulle elezioni europee, sulle elezioni locali. I dati delle europee ci dicono che praticamente la provincia delle elezioni provinciali, che la provincia di Napoli è del PDL, conferma invece su molte province per quello che riguarda il PD, la provincia di Milano ancora in bilico. Sentiamo i titoli del TG2. Al Parlamento di Strasburgo ci saranno solo 5 partiti italiani, 29 eurodeputati saranno del PDL, 21 del PD, 9 della Lega, 7 dell'Italia dei Valori, 5 dell'UDC. In tutta Europa avanza il centrodestra. Il PDL, il governo rafforzato dai risultati, la Lega esulta, siamo radicati nel territorio. Franceschini, avanti con il nostro progetto. Di Pietro, noi unica alternativa, Casini equidistanti dai poli. I primi dati delle provinciali danno il PDL in testa a Milano, nel nord-est e a Napoli. Il PD si conferma in Emilia e Toscana, in molte città è lotta all'ultima scheda. L'aereo precipitato nell'Atlantico, recuperati finora i corpi di 16 delle 228 persone a bordo, si rafforza l'ipotesi di un guasto tecnico all'origine del disastro. L'Europa intima, riducete le tariffe dei telefoni. Dal 1 luglio i costi diminuiranno del 60% in tutti i paesi europei. Un SMS inviato dall'estero costerà al massimo 11 centesimi, le telefonate al massimo 43 centesimi, 19 quando le riceveremo. Eccoci di nuovo in diretta, 800 24 00 24, andiamo a Bergamo. Gabriele, buonasera. Buonasera, volevo dottor Cruciani, commentare gli europei. Degli europei non si è parlato prima delle elezioni e non se ne sta parlando neanche dopo le elezioni. E questo è singolare, e da buoni italiani continuiamo a parlarci addosso. Commentavo la sconfitta, lo dico ironicamente, al PDL, che porta 4 deputati in più al PPI europeo e in più accorpa la forza quelli che erano i deputati dell'ex alleanza nazionale, quindi consente a livello europeo al Partito Popolare di tenere quel 36% che lo fa essere il primo partito. Il paradosso è che la Lega, che continuiamo a sommare i 10 punti percentuali della Lega al PDL, in Europa proprio va in una direzione completamente opposta, per cui PPI vuole la Turchia in Europa, la Lega non la vuole. E paradossalmente il risultato di Pietro, che in Italia raccoglie l'antagonismo a Berlusconi e forse la sinistra radicale, ma che probabilmente in Europa sarà molto più allineato al Partito Popolare che al Partito Socialista. E questo qua è, se vuole, il vero paradosso della giornata elettorale, che quasi come in un dramma, in una commedia italiana, somma gli opposti. Viceversa, lei ha parlato dell'effetto psicologico di un Berlusconi, come mai un Berlusconi che ha fatto un anno comunque, che è filato via liscio, abbia poi incappato in una battuta d'arresto alla sua immagine. Beh, forse gli italiani che si sono abituati a un Berlusconi che cominciava a fare lo statista, quando è tornato a fare il farfallone, L'hanno un pochettino punito, se così ci consente. Non dica che l'anno di Berlusconi è filato via liscio, sennò l'ascoltatore di prima che ci ha chiamato si arrabbia, Era solo per parlare di effetti psicologici. No, ma infatti era questa la cosa, assolutamente. Gabriele, non so se sia stato questo il motivo per cui, diciamo, si è inceppato qualcosa nel consenso a Berlusconi. Può darsi, diciamo, il Berlusconi statista magari piaceva di più, invece il Berlusconi, tra virgolette, estremista, farfallone, come dice lei, può perdere consenso. Non so, può darsi. Fatto sta che nella battaglia mediatica che c'è stata e nella vera campagna elettorale che ha contrapposto il gruppo Repubblica a Berlusconi, mi sembra che qualche punto lo abbia messo a segno il gruppo Repubblica. Cosa cambia dopo il voto su 8,5? Sentiamo. Ministro, deputato del Partito Bersani. Democratico. Eccolo. Senta, qua. Ci spiega come si fa invece a perdere 7 punti in un anno, che è quello che è successo al Partito Democratico? Si fa come abbiamo fatto noi, ma... Io dico questo, giudicando il nostro voto, che insomma, diciamo così, ci si dava per morti, siamo il mondo. Certamente se dicessimo che va bene così, diciamo, accorceremmo di molto le nostre ambizioni, quindi certamente non va bene così. E tuttavia questo dato va letto un po' in controluce anche rispetto al dato del Popolo della Libertà, su cui non ho lo stesso giudizio di Maurizio Lupi. Credo che abbiano visto tutti che comunque un arresto della spinta propulsiva del berlusconismo, almeno nella sua chiave un po' plebiscitaria, c'è stata. E quindi l'insieme di queste cose, noi comunque che possiamo riprendere un cammino discutendo, riflettendo, e Berlusconi che mostra comunque di non essere sempre e comunque in ascesa, mi pare che ci metta in condizioni di riprendere l'iniziativa. Bene, questa è la valutazione di Bersani, che insomma, per gli elettori del Partito Democratico l'unica consolazione è Berlusconi che non sfonda rispetto a quello che magari lo stesso Berlusconi si aspettava. Questa è quello che viene fuori, mi sembra, dalle parole di Bersani. Ci davano per morti, invece siamo vivi. Questo è, e andiamo a Roma da Franco. Pronto? Franco, dica. Cruciani, buonasera. Buonasera. Volevo dare una mia versione sul fatto dell'asticella posta al 40% e oltre. E penso che sia proprio tipica del marketing, in questo senso qui. Secondo me Berlusconi sapeva benissimo che aveva qualche difficoltà dopo le ultime vicende, per cui è un po' nel gioco del bluff del giocatore di poker, la sparo grossa per attirare sempre di più, praticamente, tanto se si vince grande, tutti quanti vanno a votare. È un po' come il canto del cigno, in questo senso qui, e purtroppo gli è andata male perché probabilmente non ha funzionato questo bluff. E mi rifaccio a quello che diceva prima, quell'ascoltatore di prima, penso che sia veramente adesso la curva discendente per il nostro premier, dovrà inventarsi qualche altra cosa, però dobbiamo considerare anche che avanzando l'età la freschezza mentale si perde. Questo può darsi, Franco, però l'Italia è un paese bizzarro. Le elezioni sono state appena un anno fa e qualcuno già dice la parabola di Berlusconi è discendente. Sono le stesse parole che ascoltavo nel 94, cioè nel 95, nel 96, nel 2006, le stesse identiche parole. Questa è semplicemente una considerazione, non è una speranza o un auspicio. Andiamo a Roma, anzi restiamo a Roma. Mario, buonasera. Sì, buonasera, volevo ricordare una barzelletta che girava degli anni 60 a proposito dei risultati elettorali, su come vengono messi in luce da certa stampa. E precisamente era questa, io me la ricordo, Khrushchev e Kennedy. Khrushchev era il leader un po' anziano dell'Unione Sovietica, Kennedy lo sappiamo tutti chi era, si sfidarono in una gara di 110 metri a ostacoli, dopodiché naturalmente vinse il giovane Kennedy. La Pravda, che era il simbolo della Russia di quegli anni, dell'Unione Sovietica di quegli anni, dette la notizia in questi termini: si è svolta l'attesa gara prevista, eccetera, eccetera, il nostro leader ha conquistato un brillantissimo secondo posto, mentre il presidente americano è arrivato soltanto penultimo. Che praticamente è quello che sta succedendo adesso, stanno praticamente invertendo gli ordini dei fattori. Per rimanere in campo atletico, è come se colui il quale aveva un risultato modesto, è arrivato in finale, ha vinto la medaglia d'oro. Il primatista del mondo, siccome non è riuscito a eguagliare il suo record, beh sì, ha vinto, ma la medaglia la diamo a qualcun altro. Ma vede, quello che a me fa impressione di tutta questa storia è che chiunque sia poi a vincere o a perdere, eccetera, c'è una specie di delegittimazione del risultato che non è che fa bene a questo paese. Perché se si secondo lei il risultato secondo lei il risultato qual è stato allora? No, il problema è questo, che se si dice che vince chi passa dall'8 al 10%, dal 5 all'8% sì, e perde chi passa dal 40 al 34, si delegittima quello che c'è al 34, perché tutta sta storia è intesa a delegittimare il vero vincitore. Vince chi c'è al 34, chi è primo, punto. Sì, no, ho capito. Poi però ci sarà una tendenza a calare. Va bene, ma di quello si parla, altro. Non si parla di vincitori di sconfitti, si parla di tendenza, di tendenze di voto. Ha vinto. Ma sì, ma perché si calcola nella vittoria, no, si dà per scontato che Di Pietro non possa arrivare a essere il primo partito, dunque non possa vincere le elezioni e non possa diventare il primo partito, però si considera il fatto che rispetto, non so, sia al 2004 alle passate elezioni europee, sia al 2006, sia al 2008, il partito di Di Pietro prende molti più voti, arriva all'8%, questa viene considerata una vittoria. Lei deve un po' scindere la vittoria dalla classifica, poi insomma la vittoria viene considerato l'avanzamento elettorale, ecco. Ma è sbagliato. Non è sbagliato. Veramente ha vinto. Ma no, perché capito. Poi alla fine non si riconosce a chi ha vinto il diritto di governare. Vede, in Spagna, no, per esempio, sì, sono andati sotto le finestre di Zapatero a strillare che deve dare dimissioni. Ma sì, perché? Sono elezioni europee. No, ma su questo ha ragione lei, perfettamente. No, ma vede, è lì che poi si va a parare tutto il discorso, ha capito? No, ma lei ha ragione. Sentiamo ancora Bersani. Molto seri, tutti quanti assieme, fraternamente, come abbiamo fatto questa campagna elettorale, né più né meno. Cominciare anche da questa dimensione europea, intendiamoci bene, che qui bene, non possiamo guardare solo il pollaio di casa. Noi abbiamo, non so se tanto si possa dire una piegatura a destra della politica europea, o se piuttosto si possa dire quasi un effetto di spaesamento e di perdita d'orizzonte. Ecco, ma lei ci dica una idea per rilanciare il Partito Democratico che ha avuto? Insomma, ho avuto un'idea, adesso io ho in testa da sempre l'idea di un grande partito popolare, di una sinistra democratica e liberale, e ho in testa che noi dobbiamo assolutamente andare oltre un'esperienza socialdemocratica che si è piantata, come si vede, che ha le gambe abbastanza piantate, così come dobbiamo portare un contributo anche rispetto a esperienze classiche tipo quelle liberali. Io credo fortemente che noi la società nuova che vogliamo sia un punto d'equilibrio, fa un mercato regolato e molto più libero di quello che abbiamo adesso, che è pieno di monopoli, corporazioni e così via, e una società rassicurante sui bisogni fondamentali, perché il nostro problema è dar rassicurazione a questa società. Dalla provincia di Caserta, Giulio, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, l'ho chiamata per due motivi. Sì. Allora, in primo luogo c'è un ascoltatore che mi ha preceduto che l'ha criticata perché lei ha dato troppo per scontato che il problema dei rifiuti fosse stato risolto da Berlusconi. Ecco, io chiamo da Aversa, cioè una città che sotto Prodi era sommersa dai rifiuti fino al primo piano, cioè, sto parlando di sotto casa mia. Ecco, invece adesso non ci sono. Tanto è vero che ieri il PDL ha avuto il 46%, altro che Asticella al 40%, voglio dire. Mi sente? Sì, sì, la sento, Giulio. Poi, ecco, ripeto, sulla storia dell'immondizia ognuno ha le sue esperienze. Ecco, ognuno... no, voglio dire che noi l'abbiamo vissuta in prima persona. I comuni, cioè, li avevamo sotto casa, adesso non ci sono più. Quindi quelli là, coloro che parlano insomma da migliaia di chilometri e pontificano, insomma, la criticano, dovrebbero prima, insomma, avere informazioni più corrette. Poi? Ecco, poi la chiamo per un altro motivo, una provocazione la mia. Io sono un elettore di Barbara Matera, siamo stati in 129.000. Sì, ho letto, sì, ho letto. Ha visto che esploit. Sì. Ecco, la mia provocazione è questa, non sarebbe stato meglio se Berlusconi, visto questo esploit, non si fosse fatto intimidire all'epoca, insomma, da Veronica e dai giornali della sinistra e avesse candidato effettivamente le cosiddette veline, dato l'esploit della Matera e il corrispettivo parallelo esploit della velina della sinistra Serracchiani? Beh, adesso insomma, devo dire, velina Serracchiani mi sembra eccessivo, senso, diciamo facce senso, nuove, lei dice, facce in nuove. Che senso, faccia nuova, aria intelligente, non sappiamo cosa pensano realmente, perché dicono delle cose scontate, ma non è che abbiano questi pensieri molto originali. Ecco, sono carine, sono nuove, sono intelligenti, almeno tolgono il posto a delle vecchie cariatidi. Questo è positivo, dal mio punto di vista. Io non so se sia positivo o meno, io non valuto sulla base della vecchia cariatide, sì, io valuto sempre in base, almeno per quello che mi riguarda, in base alle cose che si dicono. Fatto sta che 129.000 preferenze per la cosiddetta ex letteronza, così viene ribattezzata. Io vito, mister 100.000 preferenze. Sì, Barbara Matera, cioè 129.000 preferenze sono certamente uno straordinario esploit, come un esploit quello di Deborah Serracchiani, che addirittura in Friuli prende più voti di Berlusconi, come sapete. Lei dice cosa sarebbe successo se Berlusconi non fosse stato fermato, non so da chi, forse dalla moglie, nel voler mettere in lista personaggi, diciamo, simili alla Matera. Lei questo si chiede. Qui, comunque bisogna dire che secondo me, cioè, qui al sud abbiamo votato veramente poco. Io ho votato a ora di pranzo di domenica, nella mia sezione erano all'11%, ho chiesto al presidente della sezione, erano all'11%, cioè percentuali bassissime, e quindi non penso che debbano molto cantare vittoria quelli della sinistra, non visto che si possa cantare vittoria con quei numeri, con quelle percentuali. Va bene, va bene. Perché quando ci sarà, ci si sentirà chiamati in causa con le elezioni politiche, insomma, cose che interessano di più alle persone. Adesso guardiamo a Napoli, alla provincia di Napoli, il candidato della 57,4%, sì. È al 57,3% mi sembra. Sì, 57,4% per Cesaro e Nicolais, che pur non è una... Stiamo parlando nella provincia, appunto, che era sommersa dai rifiuti. 34,8% Nicolais, sì, ormai quasi certo il primo turno Cesaro, al primo turno. Sembra che la tendenza è evidente, non si possa negare. La ringrazio. Prego. Intanto non ce l'ha fatta, non so se Barbara Palombelli, che prima era in collegamento con noi, è contento oppure no. Non ce l'ha fatta Emanuele Filiberto, il principe Emanuele Filiberto, nonostante ballando con le stelle, ballando sotto le stelle, programma che lo ha lanciato come ballerino e poi come candidato, sentiamo. E allora, signori, chi vince ballando con le stelle lo decidete voi, lo avete già scelto voi, noi possiamo solamente dire, facciamo comparire il mascherino, eccolo qua. siamo pronti per la proclamazione della coppia che voi avete eletto regina dell'edizione di Ballando con le Stelle. Signori, dico per l'ultima volta in questa edizione 2009, vai mascherino, vai contatore! Ed è Emanuele Filiberto! E oggi mi propongo giustamente agli elettori come Emanuele Filiberto, sì, si chiama di Savoia, ha dietro di lui una storia, la rispetta, però sa guardare avanti. Non ce l'ha fatta, nonostante 22.500 voti, che non sono poco, però insomma, non ce l'ha fatta entrare al Parlamento europeo. Lina da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo parlare del non voto sardo. E purtroppo diciamo che la percentuale di non votanti è stata altissima, però c'è una ragione ben, diciamo, ben specifica e secondo me giusta, perché voglio dire, non abbiamo niente contro i siciliani, chiaramente, però siamo accorpati a loro, essendo loro un numero molto superiore al nostro di elettori. Noi non riusciremo mai a mandare un nostro rappresentante sardo. Per cui al Parlamento europeo, dice lei? Esatto. A che scopo andare a votare? Vabbè, non è che si va a votare solo per eleggere un sardo, per carità. Le elezioni europee sono qualcosa di diverso. Lei dice che le circoscrizioni sono fatte in modo che i sardi praticamente non contano. Può darsi, Lina, può darsi. Per cui è scomodarsi inutilmente. Beh, no, inutilmente. Adesso, insomma, non è che... Se un sardo vota, non so, un rappresentante di un'altra regione, non è che sia un dramma. Immagino che si faccia campagna elettorale anche in Sardegna per le elezioni europee. Lina, intanto le indico e le dico quali sono le persone più votate. Berlusconi 2.700.000 voti. David Sassoli, il secondo più votato, però molto lontano, 400.502 voti. De Magistris, terzo, il magistrato, l'ex magistrato. Per Italia dei Valori 382.000, poi Bossi 328.000, Antonio Di Pietro 256.000. Di questi che vi ho detto, Berlusconi sicuramente rinuncerà, Bossi sicuramente rinuncerà, Di Pietro sicuramente rinuncerà. Per cui fuori tre, rimangono solamente Sassoli e De Magistris. Poi Rita Borsellino 229.000, sicuramente rimane. Ignazio La Russa 223.000, anche lui rimane in Italia. Sergio Cofferati 201.000. Mario Mauro del PDL 158.000, se non sbaglio. Rosario Crocetta, sindaco di Gela, Partito Democratico, 150.000. Questi i più votati in Italia. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo dare una mia interpretazione del voto, che a prima vista può sembrare un voto che non è un voto politico, invece in realtà lo è. E secondo il mio parere lo dimostra praticamente la vittoria, diciamo tra virgolette, della Lega e dell'Italia dei Valori di Pietro. Perché questo voto è un voto di protesta, ancora un voto di protesta per il cambiamento. Da una parte con l'Italia dei Valori che vorrebbe il cambiamento di governo buttando giù Berlusconi con i mezzi che sa, e dall'altra invece la Lega che ha incarnato sempre il cambiamento nella parte, diciamo, dei votanti di destra. Questo secondo me è l'analisi del voto, che esprime veramente una valenza politica e a parte l'astensionismo in ogni caso, ecco. Va bene, la ringrazio. Intanto Mastella ha preso 111.710 voti, tantissimi, 111.710, ed è diciamo nella top 20 delle preferenze, nella top 20 delle preferenze sicuramente. Non so se abbiamo qualche titolo di TG alle 21, no? Allora andiamo subito con gli ascoltatori, mentre vi dico che a Firenze molto probabilmente si andrà verso il ballottaggio tra Matteo Renzi e Giovanni Galli, con Renzi che esprime delusione per questo risultato. Uno degli astri nascenti del Partito Democratico non ce l'ha fatta al primo turno, ma si va al ballottaggio anche alla provincia di Milano, molto probabilmente, se le cose non cambiano nelle prossime ore, perché su 2.229 sezioni scrutinate alla provincia di Milano, anzi 2.261, la situazione è 48,5 a Podestà, 39,4 Penati. Dunque situazione su 2.261 sezioni su 2.900, mancano meno di 700 sezioni, 48,5 potestà appenati, 39,4. Il trend ormai è questo ed è ormai da ore che potestà non supera il 50%. Ripeto, c'è il problema di capire da dove vengono le sezioni, che tipo di sezioni sono, in quali zone sono circoscritte, dunque non si può dire, si potrebbe avere un ribaltamento immediato, ma il trend ormai sembra quello, un ballottaggio alla provincia di Milano rischioso per il centrodestra. Bene, andiamo a Firenze da un ascoltatore, non c'è più, allora Fabio da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. No, il mio intervento era una considerazione, no? Dato che sono un elettore mio malgrado di centrodestra in queste ultime elezioni. Mio malgrado perché sono scoraggiato un pochino dal panorama politico italiano generalmente parlando. E questo perché ho sentito gli interventi prima di chi diceva siamo arrivati alle elezioni depressi, ma siamo ancora qui. Altri personaggi, gli esponenti del PD dicevano siamo ancora vivi, ma i più stupiti sembravano addirittura loro. Quindi quello che non mi spiego è come possa un partito che deve comunque fare opposizione, quindi politica costruttiva, in opposizione a un demonio che loro disegnano come tale, perlomeno, che potrebbe spadroneggiare in Italia, mi chiedo come possa avere una sostanza. Cioè, le elezioni, a mio avviso, e penso che i fatti lo dimostrino, si vincono come hanno fatto, non dando la colpa a Bassolino, Bertolaso, al prefetto e via dicendo, facendo le cose. Sono andati a Napoli, hanno ripulito Napoli, adesso vediamo il risultato del candidato del centrodestra, del PDL, che ha avuto un risultato eclatante dopo 16 anni di governo nel centrosinistra. Quindi con i fatti e con le azioni, allora la sinistra ha sempre avuto una base molto solida. Però oggi stupirsi del fatto di essere ancora al 7, 8, 11%, adesso non so di preciso, in Europa, si sono stupiti loro per primi di avere questo risultato, quindi questo non è costruttivo. Io non so se sia costruttivo o no, certo che è curioso il fatto che per esempio Bersani questa sera 8:30 abbia esordito dicendo ci davano per morti, invece siamo ancora vivi. La ringrazio. Pierpaolo da Cremona, buonasera. Sì, buonasera a lei. Dica. Ma io volevo dire una cosa. Adesso, sentendo anche vari ascoltatori, io non vorrei che, così, la mia analisi, questo sentimento di insicurezza, di protesta, di malcontento, non stia sfociando a carattere generale in Europa in un atteggiamento di aggressività, inteso che si è parlato appunto in un... che stanno prendendo piede molto i partiti xenofobi. Sì. E non vorrei che, è vero che magari da un lato a carattere nazionale il partito, il PD, abbia dimostrato una certa debolezza, ma non vorrei che la gente adesso sia a caccia di personaggi che possano interpretare e manifestare una certa malcontento attraverso questa capacità di affermazione. E questa è un attimino da analizzare, non voglio paragonarlo alla situazione italiana. A livello nazionale ci sarebbe poi, seconda riflessione, questo astensionismo, ma perché? Non è che il partito dei fatti effettivamente ha peccato su qualcosa? Il partito, il PDL, che è stato sempre riconosciuto come un partito che fa fatti, no? Ripeto, come diceva Massagaglia, mi auguro che, dato che sì, c'è stato un calo, ma comunque Berlusconi può ancora avere la possibilità di gestire la situazione, che faccia con le riforme, soprattutto nel mondo del lavoro, che sono importanti. E questo per riferirmi anche alla prima osservazione che facevo, perché anche l'Italia dei Valori mi sembra che si premi molto questo modo di presentarsi, di urlare, di criticare, ma poi non si dà molta importanza a quelle che sono le proposte, le capacità di le competenze delle persone. Ho capito. Va bene, ci sono, però non vengono presentata in maniera aggressiva come negli altri partiti. Va bene, la ringrazio. Stefano da Modena, buonasera. Stefano, sento un ritorno fastidiosissimo, dica. Sono allontanato. Dica. Buonasera a lei intanto. Buonasera. Io volevo soltanto esprimere un parere riguardo al risultato elettorale del PDL. Sì. Che mi sembra tutto sommato decisamente insoddisfacente rispetto a quello che è stato preventivato precedentemente. Insomma, non è stato certo il PD che ha trasformato questa consultazione in una specie di referendum sul governo Berlusconi e su Berlusconi stesso. Credo che sia stato poi lui, il primo ministro, a mettere la soglia del 45%, piuttosto che il mio consenso personale al 75%, piuttosto che a tutte queste cose che hanno creato un'aspettativa e che poi invece alla fine hanno preso loro 35 e sono andati a casa, ecco. Beh, insomma, andati a casa mi sembra un'espressione un po' eccessiva. No, se lo portano a casa perché... Ah, se lo portano a casa, sì, che se ne vadano a casa è un altro discorso. No, lo portano a casa, ho detto. Non vanno a casa perché è giusto che siano lì a governare, perché forse danni una pandemia ancora abbastanza, quindi è giusto che ne facciano ancora un po'. Ma questa è una mia opinione personale, naturalmente. No, non è un'opinione, è una battuta, Stefano. Sì, anche. Guardi, Cruciani, io le dico. Sono... No, va bene, per carità, siamo qui ad aspettare. Cioè, non si possono fare battute, considerazioni, si può parlare di filosofia, si può dire qualsiasi cosa. Lei dice il risultato del PDL è insoddisfacente. Certo che è insoddisfacente, assolutamente. Berlusconi aveva detto, i sondaggi mi dicono che siamo tra il 40 e il 45%, non c'è dubbio che sia insoddisfacente rispetto a questa asticella che è stata posta da Berlusconi lì tra il 40 e il 45%. Sì, questo è, però stranamente sembra che, perché lui, guardi, le dico una cosa, nel mio mestiere, lavoro in aziende modernamente organizzate, mi hanno fatto fare dei corsi di marketing, di psicologia della vendita, di insomma mi hanno insegnato tante cose. Allora? Lo sa Cruciani quando parla Berlusconi cosa sento io? Sento le tecniche di vendita che ho imparato. È vecchia questa però, Stefano. No, questa è verità, non è vecchia. No, ma è 15 anni che si dicono queste cose. A parte che la politica è anche vendita di un prodotto, insomma, non bisogna nemmeno scandalizzarsi troppo. Berlusconi è uno che ha la capacità, per chi ha bisogno o ha voglia di ascoltarlo, di orientare in un certo modo le cose. Ecco. Però sono tecniche precise di comunicazione commerciale che si fanno per ottenere diversi risultati. Io le faccio per avere risultati commerciali, Berlusconi li fa per avere consenso. Ma non c'è niente di nuovo in questo, Stefano. No, non c'è niente di nuovo, però veramente viene detta questa cosa qua. Allora passa fuori che Berlusconi è il grande statista. Ma ripeto, è 15 anni che si dicono queste cose sulle tecniche di comunicazione di Berlusconi. Non è mie... Cioè, se ne parla da 15 anni. Berlusconi è stato scannerizzato in mille modi, la comunicazione di Berlusconi, il modo in cui fa comunicazione, il modo in cui fa politica. Uno statista, non uno statista, è un politico, è un comunicatore. Insomma, sono cose che sono state dette e ridette centinaia di migliaia di volte. Lei dice che non se ne parla. Probabilmente non abbastanza, lei dice, la gente pensa che Berlusconi sia un politico. Vabbè, questa la sua è una valutazione personale. Lei è un avversario evidentemente di Berlusconi e ne pensa tutto il male possibile, ma questo è un altro discorso. Qui siamo nel campo, come dire, non più della valutazione, ma delle preferenze. La ringrazio molto. 800 24 00 24, Mario Aiello del Messaggero. Ciao Mario, buonasera. Ciao a tutti. Allora, voglio sapere da te qual è oggi l'argomento di cui si occupano, almeno di cui si occupa un cronista politico attento come te alle cose che succedono nel palazzo, più della debacle di Berlusconi rispetto all'asticella che lo stesso Berlusconi aveva posto al 40-45%, oppure un Partito Democratico si sente vittorioso pur avendo ceduto il 7%? Guarda, io dico, dal mio punto di vista la cosa che mi interessa di più oggi è sono le preferenze, chi ce l'ha fatta, chi non ce l'ha fatta, perché mi colpiscono due cose. Sì. Le famose veline, così come sono state ribattezzate, anche se secondo me abbastanza inopportunamente, cioè le giovani leonesse del PDL, Partito della Libertà, hanno avuto una valanga di voti. Barbara Matera 129.000 voti, ma anche le altre? La Matera tantissimi. La Licia Ronzulli è stata... Che belina non è mai stata, ma guarda, neanche onestamente, neanche poi tanto la Matera, perché poi, insomma, lì io sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza femminista in questo. Insomma, sono state messe delle etichette un po'. Le etichette sono vergognose. La Matera qualcosa in televisione ha fatto, la Matera, ma non per questo uno deve essere etichettato come velina. Insomma, no? Qualche cosa in televisione, ma mica mi chiamano velino o velone. E poi anche l'altra, Lara Comi, che è una ragazzetta lombarda, tutta carina, ha preso molti voti. E poi sul versante opposto, diciamo, delle cariatidi oppure delle pantere grigie, anche lì ci sono stati dei successi pazzeschi. Cofferati, che nessuno voleva, il pensionato di lusso, quello che ha lasciato il comune di Bologna perché si voleva avvicinare alla figlioletta a Genova e infatti finisce a Strasburgo, ha avuto un buon successo. Luigi Berlinguer, in corsa nel nord-est per il PD, sembrava scongelato, dice oddio, ma hanno proprio, l'hanno tolto dal frigorifero, l'hanno rimesso in campo, è stato eletto. Ciriaco De Vita idem, per non dire di Mastellone. Clemente Mastella, ti dico, lo sai già, il ritorno del leone dei cefaloni. 111.000 voti Mastella, 111.000 voti. De Mita, stavo guardando, pure un sacco di voti, una cosa pazzesca. De Mita ancora in grado di raccogliere, non lo dico in senso ironico, lo dico così come notizia, è ancora in grado di raccogliere, vedo qua, Ciriaco De Mita, eccolo qua, dunque, Ciriaco De Mita 56.000 voti, cioè Ciriaco De Mita oggi, senza probabilmente muovere un dito in campagna elettorale, non credo che abbia fatto una campagna elettorale battendo palmo a palmo tutti i paesi della sua circoscrizione, dubito. Sì, no, anzi, 56.442 voti, una cosa pazzesca per me, cioè, insomma, queste vecchie cariatidi che non muoiono, cariatidi, poi insomma, così, senza che la cosa sia di disprezzo, che ancora sono in grado di raccogliere decine di migliaia di voti, incredibile. Una pantera grigia non è una cariatide. Comunque questo aspetto, sì, dei vecchi giovani. Vito Bonsignore, tanto bistrattato da Beppe Grillo, che è un altro del PDL, 53.000 voti, alla faccia delle condanne, delle cose. Sì, e sì, poi... vabbè, questo sì. No, per dire, insomma. No, e poi un'altra cosa che devo dire, così, in una fase in cui sembra tutto un reality show, uno spettacolo televisivo, invece il principe Emanuele Filiberto di Savoia non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, no. A riprova che il televoto con cui lui vinse Ballando con le Stelle è diverso dal voto reale e materiale. Assolutamente, 22.000 voti non sono pochi, ha preso 22.000 preferenze, no, che non sono poche, però no, certo non è nella top 20 qua, vedo dei votanti. No, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, no. È rimasto fuori anche Gianni Rivera, che pure è già stato europarlamentare e anche, devo dire, un buon parlamentare. Vabbè, insomma, questi poi sono i giochi, dipende pure dove ti candidano. Sì, sì, certo. Quanti voti prende il tuo partito in quella circoscrizione, se riesce, quanti eletti ci sono in quella circoscrizione. Deborah Serracchiani, qualche parola su Deborah Serracchiani, Mario? Deborah Serracchiani, 144.000 voti, la potenza del web? 144.000 voti. Ma potenza del web, secondo te? È una potenza del web, sì. È una candidata nata sul web, perché col suo discorsetto di 10 minuti non so se ti voglio, a Cinecittà, sì, all'incontro con Franceschini, con Franceschini, eccetera, è stato così, uno dei video più cliccati proprio della storia del web italiano. Però a questo la Serracchiani ha accompagnato una campagna sul territorio vera, cioè è proprio la riprova che poi, insomma, le risorse così, che alcuni partiti hanno ancora delle risorse sul territorio che devono essere maggiormente maggiormente favorite e promosse dal partito stesso. Lì io devo dire Franceschini è stato molto bravo. Sì, quando ha visto la Serracchiani combattere, anche rimproverarlo in maniera piuttosto energica, in quella situazione l'ha subito candidata. Sì, e poi sai, questo è proprio il perfetto equilibrio tra perfetto equilibrio, io direi obamaniano in minuscolo, ovviamente, perché poi insomma tra così, l'aspetto della politica online e l'aspetto della politica da polpaccio, c'è stato proprio quello del battere il territorio. Sì, del battere. Cos'altro ti ha sorpreso delle preferenze, dato che ti sei occupato delle preferenze? Io vedo qua anche là una di lungo corso, come Silvia Costa del Partito Democratico, 118.000 voti. Sì, Patrizia Toia, 130.000 voti. Patrizia Toia, sì, 128.000. Le donne mi hanno sorpreso positivamente. Lo sai che devo dirti, mi ha sorpreso anche il secondo più votato dopo Berlusconi, Davide Sassoli, non me l'aspettavo francamente. E a me anche molto della Gristis, che ha battuto Di Pietro ovunque, insomma non ovunque ma quasi. Già li soprannominano lui e Di Pietro, essendo ex diciamo, i due marescialli a Strasburgo, come nel film, il famoso film. E, chissà se resisterà questa coppia poi, perché... Beh sì, noi sappiamo che Di Pietro, tu ti ricorderai il caso di Occhetto, per esempio, sì. Che andò all'Europarlamento con Di Pietro insieme a Giulietto Chiesa, certo, e litigarono. Giulietto Chiesa idem, ancora sono battaglie legali, per cui Di Pietro è un personaggio che poi che non riesce sempre a conservare il proprio personale. No, diciamo che non ama circondarsi di stelle, diciamo, no? Ecco, bravo. Per cui bisogna vedere se la stella De Magistris poi riuscirà a convivere con Di Pietro. Bene, Mario, io ti ringrazio alle 21.25, senza dimenticare che i 5 partiti che invieranno parlamentari a Strasburgo incasseranno un sacco di quattrini. I 5 partiti sono PDL, PD, Lega, Italia dei Valori e UDC, come sapete. Per esempio, il partito di Berlusconi avrà 103 milioni di rimborsi elettorali, quello di Franceschini 84. Grazie a un emendamento fatto approvare alla fine, i partiti rimasti sotto la soglia del 4% non prenderanno nulla. Ripeto, il monte complessivo da distribuire è di 5 euro per ogni cittadino avente diritto al voto. Quest'anno dunque 50.341.000. Dunque la torta da distribuire è di 251.708.950 euro. Oltre 250 milioni di euro da distribuire tra i partiti, ed è uno dei motivi per cui c'è questa grande corsa al Parlamento europeo. Bene, Cristiano da Milano, buonasera. Cruciani, buonasera a lei. Dica. Senta, due considerazioni. La prima, che secondo me comunque queste elezioni le ha vinte Berlusconi. Non le ha stravinte, ma le ha vinte. No, e adesso, insomma, le ha vinte Berlusconi, mi sembra una cosa un po' eccessiva, Cristiano, abbia pazienza. Berlusconi ha detto che avrebbe preso dal 40 al 45%, adesso ha preso 35%. Okay, come se Mourinho avesse detto che vinceva lo scudetto con 90 punti e poi ne faceva 84. Vabbè, adesso il paragone secondo me non ci sta. Però anche tenendo conto delle elezioni politiche, mi sembra che ci sia un meno 2%. Tenendo conto delle elezioni politiche, sicuramente l'ha perso il PD, questo lo possiamo dire. Su questo non c'è dubbio, certo. Perché pare che l'abbiano vinto. Però le elezioni non sono solo una questione di numeri, di confronti, ci sono anche, come dicevamo prima, questioni psicologiche, di aspettative, cosa ci si aspetta, qual è il trend che si vorrebbe avviare. Insomma, Berlusconi ha chiesto certamente un grande consenso per sé e per il suo partito. Chiaro. Questo grande consenso, diciamo, non c'è stato nelle dimensioni che Berlusconi voleva, o no? Certo. Seconda considerazione, io sono un elettore leghista, abito a Milano, leghista. Io sinceramente, parlando con la gente, mi aspettavo, io non lo vedo tutto questo successo della Lega, ecco. Però guardando i risultati sì, magari. Ma anche guardando i risultati, se lei pensa che era candidata in tutto il centro-sud, dove ha preso qualcosa tra il centro e il sud tipo un 1,5%, e se considera che l'astensionismo è stato forte soprattutto nel centro-sud, cioè, secondo me, le politiche, la Lega ha preso più voti di oggi. No, non lo so, guardi, è difficile fare questo calcolo, io sto alle percentuali per il momento, poi magari i flussi elettorali è difficile anche paragonare, ripeto, le due tornate elettorali dal punto di vista dei numeri, cioè dei numeri intendo della quantità di voti. Alle 21, 28 e 40 secondi sulla 7 sta parlando Lombardo, uno dei grandi sconfitti, devo dire, di queste, per modo di dire, poi bisogna valutare quello che è successo in Sicilia. Comunque il suo MPA più Storace non ha raggiunto più Pionati, non hanno raggiunto il 4%, sono fermati al 2,2%. C'è da segnalare che cosa? Che in Svezia c'è stato un vero e proprio trionfo da parte del partito pirata, che per la prima volta nella storia entra nel Parlamento europeo, ma non si sta parlando di pirati, quelli che vanno sulle navi, ma di pirati informatici. 7,4% dei voti, incredibile, una svolta per la Svezia naturalmente sui temi del copyright su internet. Infatti lo scopo principale del partito pirata è rivoluzionare le leggi sulla tutela del diritto d'autore. 7,4% di voti, 200.000 voti contro i 35.000 del 2006 in un'altra consultazione. Il quinto partito in Svezia col 7,4%, davvero incredibile. Credo che abbia due partiti, due rappresentanti al Parlamento europeo, abbia letto, uno o due. Dove andiamo? Andiamo a sentire altri ascoltatori in quest'ultima parte. Gabriele da Firenze, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, no, io il mio intervento è dovuto al fatto che si sa in questo momento, no, chi ha vinto e chi ha perso, cioè non si sa, c'è chi dice che Berlusconi ha perso perché l'asticella era alta, che il PD ha vinto perché non ha preso il 20%, eccetera, eccetera. Io credo che ci debba venire in aiuto fondamentalmente la matematica, cioè se io mi candido a una elezione e ci sono 9 votanti e prendo 3 voti, ho preso il 33%. Se alla elezione successiva 3 dei 9 votanti non vanno a votare, quindi ci sono 6 votanti, io prendo 2 voti, ho preso lo stesso il 33%. Quindi la questione di chi ha vinto e chi ha perso non può essere relegata alla questione delle percentuali. Bisogna vedere chi ha guadagnato numericamente veramente voti e chi li ha persi. Quindi in questo caso il PDL e il PD hanno perso tutte e due una bella, diciamo così, paccata di voti, mentre chi ha vinto la Lega, che ha incrementato il numero dei votanti, sì, e ha vinto Di Pietro, li ha quasi raddoppiati. Questo secondo me vale per qualunque tipo di elezione, che molte volte invece si fa semplicemente il conto sulla percentuale e che può traviare un attimino. Pronto? Sì, sì, però anche tenendo conto della percentuale, mi perdoni, rispetto per esempio alle elezioni politiche, il risultato poi non cambia, perché il PDL è meno 2% rispetto a quella cifra e il PD è meno 7%. È vero che paragonare le percentuali qualche volta è sbagliato? No, voglio dire solamente questo, che essendo cambiato il numero di astenuti, cioè che siccome il numero di astenuti sono diventati più, c'è un 6% in più che non è andato a votare, chi ha perso le elezioni sono il PDL, che se non vanno male ha preso 3 milioni di voti in meno, 13 milioni prima contro 10 milioni, e il PD che ha preso quasi 5 milioni di voti in meno. Cioè, gente che non è andata a votare, ma che comunque non ha confermato il voto che aveva dato. Ho capito. La Lega, che ha preso 100.000 voti in più, e Di Pietro ha preso più di 1 milione di voti in più, questi sono veramente veri vincitori. Perché se ma si guardi che 37, 35... No, ma però poi se si tiene conto delle percentuali non è che si sbaglia di molto. È vero che 3 milioni di voti in meno fa impressione, ma i numeri però sono più grandi rispetto agli altri numeri, per cui è evidente che si ragiona sui grandi numeri per quello che riguarda il PDL e anche il Partito Democratico. Sì, è più facile, più intuitivo dire il 30% e non fare un discorso, però da un punto di vista, diciamo così, puramente matematico, chi perde le elezioni perde chi ha preso meno voti rispetto alla volta precedente. Sì, anche lì bisogna capire la volta precedente che cosa sono, le passate elezioni europee o le elezioni politiche di un anno fa? No, io mi riferivo in questo caso alle politiche. Anche lì si può paragonare? Io non lo so, perché le motivazioni sono diverse, la campagna elettorale è diversa, eccetera, eccetera. La ringrazio, Michele da Perugia, sono comunque osservazioni sempre molto utili per tenere conto delle diverse situazioni, anche del modo in cui si valutano i risultati. Michele, prego. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Nel suo blog veramente radiofonico, da cui escono sintesi reali e vere, se intende Bersani non ho potuto non intervenire. Io sentendo lui, che avvalla un po' Franceschini, poi di cui dovrebbe, mi sembra, anche prendere il posto, Di Pietro facendo una politica anti-berlusconiana raddoppia i voti, la sinistra antagonista, anche se in modo suicida, raddoppia i voti rispetto alle ultime politiche. A livello europeo tutti i partiti antagonisti dei governi in carica comunque guadagnano. Le regioni in cui il PD perde il primato sono anche altre due, Marche e Umbria rosse. Berlusconi è stato sottoposto ad un fuoco mediatico, diciamo, notevole, un po' forse come il governo Brown, con piccoli grandi scandali, veri o presunti. Ora, con questo meno 7%, io non capisco come Franceschini e Bersani possano dire che questa non è una... Perché sconfitta. Berlusconi non ha vinto e perché Berlusconi voleva il plebiscito e il plebiscito non è stato. Questo è l'unico motivo per cui il Partito Democratico dice che il PDL che ha tenuto e che il PDL non ha sfondato, insomma. Vinto non lo dice naturalmente, però un anti-berlusconismo postumo, diciamo, post elettorale, sì. Anche in questo caso. Anche in questo caso tutto è concentrato su Berlusconi. Siccome tutto Berlusconi è non là. Tutto è là, tutto su siccome Berlusconi non ha sfondato, va bene anche che noi abbiamo perso il 7%. Sì. Questo non avevo dubbi, però ecco, mi fa specie che anche il partito adesso non riprenda il Franceschini imbronciato e diciamo gli dia una bastonata politica, e questo far quadrato mi lascia un po' perplesso, pur non essendo di quella parte politica là. No, oppure... ma ho capito che questo, quello che lei vuole dire, non lo so adesso quali saranno le dinamiche interne del Partito Democratico. Mi sembra che per il Partito Democratico la prima cosa era la sopravvivenza addirittura, anche se insomma, nessuno ha mai messo in dubbio un risultato inferiore al 20%, per esempio. La ringrazio, siamo quasi in conclusione, mancano 4 minuti, dunque dobbiamo andare quasi più veloci. Davide da Pesaro, buonasera. Buonasera. Dica. Piacere riparare con lei. Niente, l'ultimo argomento, io volevo dire che sicuramente il voto conta molto l'astensionismo, perché ho visto che al sud, dove il PDL ha avuto delle percentuali bulgare, l'affluenza è stata molto bassa, intorno al 40, quindi io sono convinto che le europee in fondo a noi non è che interessano molto, e come a calcio, diciamo, le politiche sta alla Champions League, diciamo, le europee stanno, che so, alla Coppa Italia. Io sono convinto che se molti avessimo rischiato di avere al governo, che so, Franceschini, Di Pietro e compagnia bella, l'astensionismo sarebbe stato molto molto meno e la gente sarebbe andata a votare. Eh sì, non so se la gente che non è andata a votare in maggioranza sono del PDL, però sicuramente le motivazioni per le elezioni politiche sono più alte. La ringrazio, Eugenio da Roma, buonasera. Buonasera, Eugenio. Dica. Allora, cioè, mi sembra che di aver sentito, adesso ho sentito un pezzettino della sua trasmissione, più di una volta anche lei adesso ultimamente dica: ma come mai sto PD è così contento di questa situazione? Sembra un po' strano. A me sinceramente non mi sembra tanto. Le questioni che Berlusconi come persona e come leader ha subito negli ultimi 2 mesi di stampa sono quisquilia rispetto a quello che ha subito il Partito Democratico: gossip, libri, libretti, libricini, saggi, articoli, richieste, infiltrazioni, cioè, ma stai andando con Cassini? No, ma ecco, non, ma stamattina come ti sei svegliato? Cioè, è un anno da quando praticamente è caduto il governo, che per carità, per loro disdoro, per loro incapacità, per loro incoerenza, che sia, il Partito Democratico è stato sottoposto a un massacro quotidiano che dura praticamente inalterato sulla stampa e sulla televisione. A me sembra che questo dovrebbe, al di là dei partiti, non c'è niente, far riflettere sulla qualità della stampa, della comunicazione, che è assolutamente debordante sopra le righe, in un gioco continuo che non so dove porta. Questo è quello che voglio dire. Lei dice le critiche a cui è stato sottoposto il Partito Democratico negli ultimi mesi sono state talmente grandi che il risultato del 26% è assolutamente è assolutamente da apprezzare. Non lo so, può darsi che sia così. Andrea da Aosta, buonasera. Buonasera Luciani. Senta, io la seguo spesso, spesso anche non sono d'accordo con lei, ma spesso sì. Prima ho sentito, purtroppo non mi ricordo il nome del suo ospite, con cui parlavate delle veline che hanno preso tanti voti di Zenita, eccetera. Mi permetta, voglio essere un po' polemico, mi sembra di sentire due comari qualunquisti, ma è possibile che siccome hanno preso tanti voti, allora dobbiamo pensare che era giusto candidarle? Oggi sulla stampa Iena, che scrive sempre dei piccolissimi articoli sulla destra, diceva è più scandaloso che Berlusconi frequenti minorenni o che milioni di maggiorenni lo votino. Allora io le domando, è più scandaloso presentare le veline o che centinaia di migliaia di italiani le votino? Cioè, no, guardi Andrea, non si faceva ragionamento su questo, solo che i voti che ha preso Barbara Matera, che sono 129.000 voti, non è che siano diversi da altri voti. Sì, lo capisco, però capisce perché la gente, cioè siamo in un paese dove c'è un livello di propaganda, che lo so che lei non è d'accordo su questo, lo so, però secondo me che fa spavento. Ieri ho visto il TG5, all'Aquila 1.000 persone hanno consegnato le schede elettorali per protesta. Il servizio del TG5 diceva che meraviglia, all'Aquila nonostante tutto hanno votato tante persone, cioè le notizie non passano proprio, la gente viene orientata, io non lo so, ancora diciamo... Le notizie non passano, vabbè, io non credo. Diciamo, alcune notizie non passano. Ma no, bisogna vedere che significa non passano. Magari alcune notizie non passano sui grandi mezzi di comunicazione, ma ci sono tanti mezzi di comunicazione in Italia. Devo chiudere per questa sera, però, Andrea. Grazie agli altri che sono ancora in linea, ma questo speciale si chiude qui. Ci sentiamo domani con la Zanzara, sempre 18:30. Ciao. La Zanzara.